A tempo di sport con Carlo Genta. So che ci siete. So che siete lì, che siete in marcia verso un appuntamento. Che so anche che avete una squadra per cui tifare questa sera. Per tanti motivi, nessuno dei quali assolutamente decisivo, che sia una scommessa, che sia semplice questione di gusto, che sia la maglietta preferita, che sia Snyder, perché è l'unico rappresentante del nostro calcio nella finale di questa sera. E mai eravamo caduti così in basso, mai avevamo avuto così poche, almeno mai in tempi recenti dall'82 in poi. Poi facciamo anche i conti, come li ha fatti ad esempio oggi Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport. Insomma, tanti motivi per scegliere una squadra. Quale me lo direte? Vi aspetto. 800240024 è il numero verde. E vi accompagneremo nella vostra marcia, nel vostro cammino verso la finale di questa sera. Da adesso, non fino alle 19 come ogni domenica, ma fino alle 20, quindi alle soglie di una partita alla quale è annunciato, ed è notizia di poco fa, anche Nelson Mandela, quindi sciolto anche l'ultimo dubbio, quelli relativi alle formazioni sono stati sciolti ieri. Nella Spagna Fernando Torres starà seduto a guardare gli altri, a guardare Pedrito, che è confermato da Del Bosque in formazione. L'Olanda invece schiera la squadra tipo, la squadra base. D'altra parte, insomma, vale quanto ha detto Del Bosque, cioè mi spiace per tutti quelli, vale su entrambi i fronti, no? Mi spiace per tutti quelli che hanno giocato meno, ma la continuità si ottiene con gli facendo giocare gli stessi giocatori, scegliendo una formazione base e non cambiandola, a differenza di quanto ha fatto in questo mondiale ad esempio Marcello Lippi. Buonasera a tutti naturalmente, buonasera anche a Massimo Callegari che ci ha accompagnato, che vi ha raccontato pure lui i mondiali da questi microfoni la sera insieme a me. Ciao Massimo. Ciao, buona domenica a tutti. Tempo di bilancio anche un po' di tristezza, è una gigantesca epifania il giorno della fine del mondiale, no? Finisce questa festa per due amanti del calcio e un po' di tristezza, cioè una gigantesca domenica sera come sensazione. Il weekend è finito, un weekend lungo un mese con dentro tante cose. Secondo me un mondiale bello, anche un po' sorprendente, che si chiude con una finale inedita. Non c'è mai stata Spagna-Olanda in finale, una finale misteriosa perché non c'è una squadra nettamente favorita, anche se a leggere insomma il cammino di queste due nazionali negli ultimi anni un po' si poteva prevedere. Spagna campione d'Europa, Olanda che non perde dal settembre del 2008, se non ricordo male, amichevole con l'Australia. Sì, è vero, poche altre squadre avevano fatto un percorso di questo tipo. Penso all'Inghilterra, penso al Brasile che addirittura aveva un percorso quadriennale, la Germania è nata in una maniera imprevedibile, forse anche per Love, per gli infortuni che ci sono stati e per come sono emersi poi in maniera così clamorosa i talenti di alcuni giovani. La Spagna in questo mondiale ha fatto qualcosa di più anche in rapporto alle squadre che ha affrontato, nel senso che ha battuto nel girone il Cile, che è stata un'ottima rivale. L'Olanda ha avuto un girone medio senza una squadra di bassissimo livello come era l'Honduras per la Spagna, però poi nelle varie fasi ha giocato una buona mezz'ora col Brasile, mentre la Spagna ha giocato molto bene con il Portogallo e molto bene con la Germania, e ha faticato di più con il Paraguay. Non so se quel parametro di prestazione e di tipo di calcio è quello a cui ambisce l'Olanda questa sera. Certo è un tipo di calcio che potrebbe portarla magari ai supplementari o addirittura ai rigori, ma difficilmente potrebbe permetterle di mettere in crisi le certezze della Spagna. È anche vero che l'Olanda arriva a questa finale come dicevi tu, grosso modo, senza aver giocato un'intera grande partita, buona mezz'ora appunto col Brasile, è stato il risultato sì, più sorprendente. Ecco. Come? Il rapporto al valore degli avversari, ecco, sì, che non sono stati di altissimo livello. Sì, comunque non ha giocato una vera grande partita come ad esempio la Spagna l'altro giorno con la Germania, o secondo Cruyff la Spagna nella partita inaugurale persa contro la Svizzera. L'Olanda ha giocato sempre su livelli medi, ma non è arrivata fin qui senza avendo vinto tutte le gare. Poche altre volte era successo in passato. Uruguay nella prima edizione del mondiale e poi il Brasile leggendario del 70 e quello meno leggendario, ma comunque il Brasile di Ronaldo nel 2002. Nessun altro c'è riuscito ad arrivare al titolo, vediamo se ci riesce l'Olanda, però nessun altro è arrivato alla finale senza sconfitte, cioè vincendo sempre. Sì, peraltro nessuno anche ha vinto il mondiale, almeno nell'era moderna, questo sono certo, perdendo una partita, a maggior ragione la partita inaugurale, come è successo alla Spagna con la Svizzera. E quella partita è importante per due motivi. Uno primario, perché è vero che la Spagna aveva giocato bene, ma aveva giocato con una presunzione che l'aveva fatto cercare qualche colpo di troppo nella parte finale dell'azione ed era stata punita molto severamente. Quella deve restare una lezione per l'atteggiamento della Spagna, anche se credo che una finale non possa mai essere presa con presunzione, ed è importante ancora di più per un altro motivo, perché nonostante abbia perso la partita in quel modo, la Spagna non ha assolutamente rinunciato al suo stile, alle sue idee, e al di là del cambio di Torres con Pedro, poi è rimasta la nazionale che ha giocato tutte le partite. C'è un messaggio di Andrea, guarda che dal mondiale del 98 che si verifica una finale inedita non mi sembra una grossa novità. Beh, Andrea, capiamoci, finale inedita per entrambe, cioè per la prima volta queste due squadre arrivano ad una finale, quindi inedite in questo senso. È il massimo risultato, almeno per quanto riguarda la Spagna, nessuna delle due ha mai vinto un mondiale. Insomma, in questa accezione intendevo. Adesso una notizie che mi interessano in modo particolare, visto che siete in viaggio verso la finale dei mondiali, il traffico. Strade in diretta. C'è un incidente sulla 22 del Brennero, 4 km di coda fra Trento Sud e Rovereto verso Modena. Sulla 5 rallentamenti e code per un incidente tra Quincinetto e Ivrea in direzione di Torino. Sulla diramazione Roma Sud, code di 3 km tra San Cesario e la barriera di Roma verso il grande raccordo anulare, anche in questo caso per un incidente. Trafficata la 10, Genova Ventimiglia, con code a tratti tra Albenga e Savone, proseguendo verso Genova, code tra Varazze e la 26 dei Trafori. Code a tratti verso Genova anche sulla 12 tra Chiavari e la 7 Milano-Genova. Traffico intenso sulla 14 Adriatica, code a tratti tra Riccione e Rimini e tra Forlì e Imola verso l'Autosole. Infine un gentile ascoltatore ci segnala traffico intenso sulla 4 tra Sirmione e Desenzano verso Brescia. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora circa. Tempo di sport. Marcia verso la finale, qui a Radio 24 c'è anche Gigi Garanzini che più tardi io spero mi raggiungerà anche fisicamente nell'ultima ora del programma, altrimenti comunque lo sentiremo tra le 19 e le 20, e questa sera sarà lui a parlare con voi dopo la partita, dalle 10 e mezzo, dalle 11, vediamo a seconda di come va la gara. Nel dopo partita ci saremo, ci sarà naturalmente Gigi Garanzini. C'è chi scrive, e ha ragione, 28 anni fa, 11 luglio 82, Berzotto e i suoi ragazzi completavano il mondiale perfetto, ma Johan Cruyff nella finale del 78 come mai mancava? Insomma, la leggenda della mancanza di Cruyff al mondiale, della defezione di Cruyff al mondiale argentino, problemi di soldi, timore di essere rapito, la voglia di non giocare un mondiale, di non giocare a calcio in un paese soggiogato alla dittatura. Questi tre motivi, secondo la leggenda di quell'Olanda e di Johan Cruyff in particolare. Massimo, c'è chi dice ed ha ragione che questa Olanda è figlia di Cruyff, questa Spagna è figlia di Cruyff, lo dice lui stesso peraltro con un po' della solita presunzione. Beh sì, però è vero, nel senso che è una squadra che al di là del modulo, perché quel Barcellona giocava con tre difensori, è cresciuta sulle idee, sui principi di calcio del Barcellona di Cruyff, che ha vinto tutto a parte la Coppa Intercontinentale dal 90, nei primi anni 90. E effettivamente è quella. È una scuola diversa rispetto alla tradizione spagnola. In passato gli spagnoli si lamentavano di non avere uno stile, un'identità ben definiti. Adesso questi ci sono dal punto di vista calcistico, sono molto più vicini al Barcellona, non c'è ancora quell'identità nazionale totale, anche se insomma questa sera al di là di Bilbao i maxi schermi saranno un po' un po' dappertutto in Spagna. Sì, questo è un altro bell'argomento, anche in Catalogna, anche a Pamplona, con cui tra poco ci collegheremo tra l'altro. Massimo, non resta che chiederti un pronostico, poi comincio a parlare con gli ascoltatori, vedo Diego e Franco già in linea. Pronostico per... Mi vuoi malissimo. Ma tanto lo chiederò a tutti, vedrai che qualcuno lo indovina. Sì, io credo Spagna. Non so come, so che non si può prevedere come sarà la partita, però ecco, credo che se la Spagna riuscirà a giocare e a imporre la sua mentalità, il suo modo di giocare, riuscirà a vincere. Se invece l'Olanda glielo impedirà, potrebbe essere diverso, però siccome ho fiducia nel fatto che la Spagna possa giocare imponendo il suo stile di gioco, credo questo. Non è un pronostico da tifoso, ma insomma così, è un'idea delle tante, spero che ci sia qualcun altro che si sbaglia oltre a me. E adesso se cominciamo a sentire gli ascoltatori, tanto martedì sei qua per una settimana di A Tempo di Sport e dunque avranno modo di rifarsi con te in caso di pronostico sbagliato. Grazie. Grazie Massimo. Buona finale, ciao. Buona finale Massimo Callegari. Domani c'è ancora Gigi Garanzini per A Tempo di Sport, per chiudere la parentesi mondiale, poi da martedì a venerdì per l'appunto Massimo Callegari, noi ci sentiamo la settimana dopo. Diego, provincia di Milano, poi Franco da Pescara. Salve Diego. Salve, grazie mille per avermi fatto intervenire. Grazie a lei. 800 24 00 24, come Diego, come Franco, come tutti voi che interverrete. Diego, dica. Allora, vabbè, io sono a favore dell'Olanda, spero che vinca l'Olanda, anche perché ho lavorato in quel bellissimo paese per quasi 3 anni e comunque questo mondiale mi sembra che si sia comportata veramente bene, come la Spagna del resto, però mi è piaciuta forse un po' più come gioco l'Olanda. Sì. E poi anche da un punto di vista personale, perché mi devo prendere una piccola rivincita, visto che comunque quando lavoro in Olanda sono riuscito da buon juventino a vedermi la finale, che purtroppo è andata malissimo, sì, contro il Real Madrid. Comunque, in ogni caso, spero che sia una bella partita soprattutto, e spero che comunque per queste due nazioni si rispetti veramente quello che è il sentimento, diciamo, di grandissima partita che dovrebbe essere, ecco, di sportività. Tra l'altro, anche Diego, sono per due popoli veramente spettacolari. Sì, anche come modo di vivere il calcio, non solo il calcio, come modo di vivere lo sport, come cultura sportiva, per dire una parola grossa. Sono due squadre anche opposte, se vogliamo, con una filosofia diametralmente opposta. L'Olanda è un patchwork, no? Giocatori, una nazionale vera, giocatori che arrivano da ogni angolo. La Spagna, il blocco Barça, è un gruppo di ragazzi molto giovani, giocano insieme da quando erano bambini, è un'idea, un progetto, una filosofia. Quindi sono due squadre opposte, se vogliamo. C'è una squadra come l'Olanda che potrebbe passare alla cassa e raccogliere il credito seminato da una squadra ben più grande di questa, che non credo, comunque vada, dovesse vincere l'Olanda, non credo verrà offuscata quell'idea, quella leggenda della squadra, soprattutto del 74 e poi anche ultima traccia nel 78. Dunque storie molto diverse, entrambe bellissime, credo. Io mi associo al tifo per l'Olanda, l'ho già detto più e più volte, in parte per la ragione che ha detto lei e poi perché mi piace più come calcio, semplicemente questo. Franco Pescara, per chi tiene? Io l'ho già detto, innanzutto salve Carlo, salve. Ci sentiamo spesso per il rugby. Bene. Comunque mi sembra anche giusto partecipare a questa kermesse di quelli che sono gli appassionati della palla sferica. Io tengo anch'io per l'Olanda, un po' come ha detto il precedente ascoltatore, anch'io, perché ritengo che comunque, cioè, dal mio punto di vista è anche giusto, dopo due finali perse, che una la vincano. E poi perché secondo me come italiano abbiamo un piccolo debito da saldare con l'Olanda, perché secondo me se non ci fosse stato un quasi vergognoso arbitraggio di Gonella del 78, e abbastanza primavera da ricordarmelo, avrebbe vinto nel 78 l'Olanda. Me lo ricordo e sarebbe anch'io. Stato giusto così, come dice spesso anche Gigi Garanzini. E quindi è giusto che la storia a questo punto restituisca all'Olanda quello che un italiano vergognosamente contribuì ad usurpare. Beh, sì, un italiano, un palo anche, se lo ricorderà quel palo di Rensenbrink al 90esimo, no? Quindi questione di arbitro, questione di squadra favorita per molte ragioni come era l'Argentina, questione di stelle come che nel calcio contano sempre, perché se Rensenbrink aveva la scarpa allacciata in un'altra maniera, magari alla faccia di Gonella, di Videla e di Chiroga di tutto quanto, quel mondiale andava all'Olanda, che incassava prima il suo credito, forse per tempo, perché quella era ciò che restava dell'arancia meccanica orfana di Cruyff, Van Aneghem e di alcuni dei suoi più straordinari interpreti. Stasera le condizioni ambientali saranno molto diverse, potrebbe incassare questo credito una squadra decisamente meno forte di quella del 74 e anche di quella del 78, perché in quest'Olanda giocatori come Kroll, Neskens e Rensenbrink non li vedo, al di là di Snyder e di Robben, che sono giocatori straordinari. Grazie Franco, 800240024 per intervenire. Ve l'avevo detto che andavamo a Pamplona, perché lì c'è il nostro amico Jerry De Rosa, voce del basket di Sky, che era qui l'altra sera e che a Pamplona è di casa. Ciao Jerry. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ben alzato, ben svegliato. No, sono già in piedi da un po'. Senti, rispetto alla Pamplona che conosci, tu sei un abitué di quella città nelle feste di San Firmin. Cosa noti, cosa hai notato di diverso, cosa hai visto di diverso? Navarra, terra molto particolare per ragioni sociali e politiche. Sì, intanto c'entra poco con i mondiali, si è notato un po' di crisi, c'è meno gente del solito, nonostante siamo nel pieno del weekend, insomma, si sente anche da queste parti, anche se forse la parte della Spagna in cui la gente sta meglio, però insomma, questo è abbastanza palpabile. Per il resto, la festa di San Firmino qua porta via un po' tutto, quindi la gente si diverte, aspetta alle 8 del mattino per i tori, la sera per la corrida che è alle 6 tutti i giorni, e diciamo che poi chiaramente saranno tutti a vedere la partita, ma non è che si respiri questa attesa così palpabile, perché appunto la festa poi ingloba un po' tutto, anche se è stata allestita un maxi schermo in Palio del Castiglio, una piazza principale. Già per la semifinale insomma era piena la piazza e chiaramente poi tutti saranno a vedere la partita, però insomma ci sarà anche qualcuno che non ti farà Spagna da queste parti. Sì. Già il fatto che è un po' particolare. Assolutamente Jerry, già il fatto che comunque ci sia lì il maxi schermo è qualcosa di molto significativo, no? A Bilbao non l'hanno messo, a Barcellona dopo alcuni no invece è stato concesso, è stato allestito dalla municipalità. Già il fatto, per le ragioni che dicevi, che il maxi schermo questa sera ci sia, immagino tu la vedrai da lì la partita. Sì, andrò lì a vederla, a vedere un po'. Anche è stato anche un episodio un po' spiacevole durante la semifinale, insomma, c'è stata una lite con una coltellata a un tifoso della Spagna con maglietta d'ordinanza della Spagna. Insomma, vabbè, questo immagino fosse semplicemente la presenza di un cretino, insomma, sì. Però insomma ieri parlando con un po' di persone, qualcuno che dice no, io non tengo la Spagna, l'ho trovato, pochi, ma insomma poi ovviamente verranno assorbiti dall'entusiasmo generale, perché comunque resta un evento storico quello di stasera anche da queste parti, insomma, però si vive questa situazione un po' particolare che noi italiani non siamo abituati a vivere, insomma, sì, quando si tratta di nazionale. Sì, credo anche che comunque vada la partita di questa sera, l'idolo di casa rimarrà Miguel Indurain, non sarà mai Via, non sarà mai Torres o qualunque ombra del partito spagnolo, no? Sì, senz'altro, qua ogni 10 minuti si sente rimbalzare il coro per Indurain, anche adesso. Ah, sì? È passato un po' di tempo, perché è veramente la gloria nazionale, e comunque qua, come ogni zona della Spagna in cui insomma non si riconosce tanto il potere centrale, si tifa molto Barcellona, quindi la presenza di tanti giocatori del Barcellona facilita insomma anche il tifo per la Spagna. Qua insomma, a parte l'Osasuna che è la squadra del posto, tutti tifano Barcellona, e il fatto insomma che il Barcellona sia molto rappresentato farà sì che diciamo il 95% di Navarri tiferà Spagna. Non mi resta che chiederti un pronostico. No, per me vince la Spagna, insomma, mi sembra più forte. L'unico rischio, secondo me, come poteva capitare con la Germania, è che l'Olanda in qualche modo faccia un gol, e allora, vista le difficoltà che ha la Spagna a segnare, fa girare tanto la palla, la nasconde, ma poi fatica a fare gol, quello potrebbe essere un problema se per caso insomma l'Olanda riesce a sbloccare il risultato, però mi sembra che dall'inizio parta favorita la Spagna. E siamo 2-0 dunque tra i nostri ospiti. Grazie Jerry, buona finale. Grazie a voi. Un abbraccio, buona finale a Jerry De Rosa. Siamo 2-0, Massimo Calegari Spagna, Jerry De Rosa Spagna. Un paio di ascoltatori di diverso avviso. Peraltro sarebbe interessante vedere la reazione della Spagna nel caso in cui l'Olanda dovesse segnare per prima. Perché sarebbe, insomma, sapete bene come la Spagna sia arrivata a questa finale con 3-1-0 consecutivi. Quindi sarebbe una suggestione interessante vedere come la Spagna riesce a uscire da quel buco dello svantaggio. Chissà, ci fermiamo un attimo, poi torniamo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Vi ricordo, insieme, oggi fino alle soglie della partita, cioè fino alle 20. A dopo. INPS per te. Ben trovati a INPS per te. Ecco una domanda arrivata via mail da un ascoltatore. Sono quasi in pensione. Il periodo prestato come servizio militare vale ai fini della mia pensione futura? Risponde il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua. Assolutamente sì. Il periodo di servizio militare, come anche quello prestato in alternativa come servizio civile, è riconosciuto come contribuzione figurativa e utilizzabile anche ai fini pensionistici. Per poterlo accreditare però è necessario essere in possesso di almeno un contributo precedente o successivo al periodo di servizio. Per chi volesse porre la propria domanda ed ascoltare le altre risposte, basta digitare www.radio24.it ed entrare nella sezione INPS per te. Al prossimo appuntamento! Ma siamo sicuri, per togliere un dente? Vale, ombre, tranquillo! Con Europa Assistanza e l'assistenza dei nostri medici specialisti. Dalla valutazione clinica con i medici del posto al rientro sanitario. Chiama l'800 44 3322 o vai sul sito. Europa Assistanza, con te in quel viaggio che è la vita. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero al centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreform.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Ancora bel tempo nella giornata di lunedì in gran parte dell'Italia, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Vi segnalo solo qualche temporale sulla fascia alpina e prealpina nel pomeriggio e sull'Appennino centro-settentrionale. Ma l'elemento più importante rimane il caldo. Continueremo a raggiungere valori elevati di temperatura con punte fino a 35-36 gradi e poi, per effetto dell'umidità sulla nostra pelle, potremo percepire anche qualche grado in più. Il caldo intenso, tra l'altro, durerà fino al 20 di luglio. Con questo è tutto, maggiori dettagli su meteo.it. Benvenuto nel servizio clienti Quixa. Davide, sì? C'è una ragazza che mi ha appena tamponato. Ah, mi dispiace, ma state bene? Sì, sì, ma è vero che mi deve lasciare il numero? No, basta il modulo blu. Ah, quindi allora è necessario che mi lasci il numero? Ah, no, non è necessario. Ah, ok, allora mi faccio lasciare il numero. Vabbè. Grazie, sei un grande, ciao. Scegli anche tu Quixa, l'unica assicurazione auto online che ti offre un consulente personale dedicato e ti fa risparmiare. Fai un preventivo, vai sul sito quixa.it. Quixa, diretta, personale, AXA. Honda Summer Dreams. Ascolti il suono del comfort, della flessibilità, delle basse emissioni. Scopri Honda Jazz con sedili modulabili in 16 posizioni, tua da 9.950 euro, oggi anche con mini rate da 99,50 euro da gennaio 2011, senza anticipo e spese di istruttoria. Honda Summer Dreams, scopri tutte le offerte della gamma anche sabato su honda.it. TAN 5.45 e tag medio 6.36. Festeggia i mondiali di calcio 2010. Estate al sole, esperienze mondiali, calcio, cultura e tradizioni dal mondo. A Milano tutti i giorni spettacoli, concerti, mostre, degustazioni e tutte le partite dei mondiali in Sudafrica su maxi schermo. Dall'11 giugno all'11 luglio, dalle 13 alle 23, in via Monterosa 91, nella prestigiosa sede del gruppo 24 ore. Estatealsole.it. Ti aspettiamo. Un'iniziativa Sasa, eventi e comunicazione, in collaborazione con gruppo 24 ore. Pronto, papà? Ciao, vengo a prenderti? No, finiamo tardi. E dai, così passo anche alla ESSO. Va bene alle 9? No. Alle 10? No, papà. A mezzanotte? Con la nuova iniziativa ESSO Self Più hai la qualità dei nostri carburanti e risparmi 6 centesimi al litro quando fai rifornimento nell'orario di chiusura. Per acquisti tramite accettatore Self Prepay, sconto sul prezzo consigliato servito. Punti vendita aderenti su esso.it. Trova la stazione ESSO Self Più vicino a te. Tempo di sport. La più importante è quella del Tour, più tardi ne parliamo con calma. Intanto vi dico subito in cronaca che vince Andy Schleck ad Avoriá e cade Livans, uno dei grandi favoriti, conquista la maglia gialla. Ma più tardi, vi ripeto, ci collegheremo con il Tour per parlare di questa tappa che si sta concludendo. È un piacere ricevere qualche voce femminile ogni tanto. Stefania da Genova, buonasera. Buonasera. La seguo tutte le domeniche perché io lavoro e quindi le devo fare tanti complimenti. Grazie. Perché lei è proprio bravo. Boh, è proprio bravo mille. quando... Ma perché non mi telefona più spesso allora? Ho già provato, ma poi non mi hanno richiamato. Allora, ci metterò una buona parola. Grazie. Numero uno, sto con la Spagna. Sì. Numero due, credo nell'azionariato condiviso come quello del Barça, quindi sì, mi fa impazzire questa cosa. Come struttura societaria, lei dice. Esatto, e non un padrone come abbiamo qui in Italia. Numero tre, non mi è piaciuto il suo accenno così ai Paesi Baschi, che hanno una problematica molto più profonda, sì, no? Quindi però la perdono perché lei mi piace molto. Stefania, mi perdoni, ma non è un accenno, è semplicemente cronaca. Nei Paesi Baschi non è stato allestito il maxischermo, Bilbao non ci sarà maxischermo, è semplicemente cronaca, mentre a Pamplona ci sarà, a Barcellona ci sarà. Nei Paesi Baschi non è, ognuno se la guarda a casa sua, semplicemente questo, è cronaca, no? Da Inghilterra, sono quelle cose ataviche che è difficile poi definirle in una battuta, no, così, no? No, ma non è neanche una battuta, le ripeto, è solo cronaca. È per capire anche il modo in cui la Spagna, la situazione nella quale la Spagna vivrà la serata di oggi, quindi è semplicemente un accenno di cronaca. Poi per il resto mi pare che sugli altri due fronti siamo d'accordo, su questo non è questione di essere d'accordo, no, mi perdoni Stefania, ma è soltanto un accenno, no? Ne abbiamo parlato molto in questi giorni, più tardi lo faremo ancora con Filippo Maria Ricci, che ci ha anche detto che questo mondiale ha avuto comunque la funzione di riunire anche luoghi della Spagna problematici intorno a questa squadra, a questo mondiale, ha avuto anche questa funzione. Non so quanto profonda, non so quanto importante, non lo so perché non sono lì e perché è una realtà che non conosco bene. Non so quanto questo mondiale possa cambiare da questo punto di vista. Lì sì, sarebbe andare un po' oltre il seminato. Quanto ai maxi schermi è soltanto una questione di cronaca. Comunque io l'aspetto di nuovo, grazie Stefania, alla prossima. Perché io sono anche una genuana, quindi sì, abbiamo una stagione che ci aspettiamo con grande emozione, con l'arrivo di Toni e tutto, e speriamo di poter fare la Champions. Sì, io avrei preso uno un po' più giovane di Toni, però insomma, questione di gusti, non so perché vi acqua fresca è dentro Luca Toni, però il Genoa raramente sbaglia i colpi in questo particolare momento storico che ormai dura da un po' di stagioni. Stefania, grazie. Francesco Ancona, grazie. Buonasera. Buonasera, dica. Salve. Allora, io il commento è questo. Io dico Spagna, però con due ma. Il primo è quello che lei ha già detto poco fa, cioè la Spagna ha vinto 3 volte 1-0. E l'unica volta che è andata in svantaggio ha perso con la prima partita con la Svizzera, sì, e quindi loro appunto nascondono una palla, giocano un calcio matematico, hanno sempre due persone, il portatore di palla ha sempre almeno due soluzioni, sì, al quale rivolgersi, però nel momento in cui gli è mancato il miglior Torres ne hanno sofferto. Il secondo fattore è il fattore personale, quello di un giocatore come Snyder, e io non sono interista, che quest'anno molto probabilmente è nella sua annata aurea ed è un giocatore del quale non si riesce poi a trovare una posizione. Non è un vero trequartista, non è una vera punta, non è una vera mezza punta, ma è un giocatore assolutamente, lo trovi in difesa, lo trovi dappertutto, che in un'annata così, è un giocatore fortissimo indubbiamente, ma in un'annata così potrebbe anche essere il suo anno. E quindi secondo me poi il calcio non è mai matematico. Certo, è bello, ci può per essere, ci può essere per una grande che... Spagna, però i due fattori, quello che ha detto lei e quello di questo giocatore che, a cui sta riuscendo tutto, perché non è neanche un realizzatore, un grandissimo realizzatore come abbiamo visto all'Inter, eppure quest'anno nell'Olanda ha fatto già 5 gol. Sì, è on fire, gli va anche tutto bene, va anche tutto bene, perché io condivido anche quanto scrive un ascoltatore: quest'Olanda non si avvicina a quella del calcio totale, ma neanche a quella di Gullit e Van Basten, ricordiamo campione d'Europa nell'88 con Rinus Michels in panchina. Questa Olanda è la squadra più fortunata del mondiale, scrive sempre l'ascoltatore. Sulla fortuna mondiale ci vuole sempre, mio caro. Con Sneijder che ha segnato 2 gol, gliene hanno dati 5. In effetti qualche gollonzo c'è stato, ma è perché, come dice lei, è probabilmente la sua stagione è on fire, come dicono gli americani. Gianni De Biasi, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera ascoltatori. Senti che ascoltatori qualificati che abbiamo. L'Olanda sempre, la Spagna ha sempre 2 soluzioni per il portatore di palla e Sneijder è on fire, è vero, tutto vero, no? Sì, verissimo. Direi che la Spagna basa il suo gioco sul possesso di palla, sul toccare la palla, come dicono loro in gergo, e direi che hanno grandissimi palleggiatori. Quello che manca quest'anno probabilmente alla Spagna per dare quel tocco in più è il Torres dell'Eurocoppa, del campionato europeo, perché è un Torres che reduce da un infortunio in stagione e ovviamente non è il miglior Torres che abbiamo visto. Loro giocano molto, producono molto, finalizzano meno di quanto vanno producendo nel corso della gara. Gianni, tu hai lavorato in Spagna, nel Levante, in una situazione molto particolare. Del calcio spagnolo, dal calcio spagnolo, cosa ti sei portato a casa? Quali impressioni? Ma sicuramente che sono molto più attenti all'aspetto tecnico, quello che noi con l'arrivo del calcio totale abbiamo un po' mollato e immolato sul piano del discorso tattico, e questo direi che è la cosa che fa la differenza. Io sono convinto che per fare un'azione abbiamo bisogno di una serie di passaggi, e quanto più bravi siamo tecnicamente nella gestione della palla, più facilmente avremo la possibilità che un'azione abbia successo. E direi che è un po' l'uovo di Colombo, però mi sembra che negli ultimi anni noi l'aspetto tecnico l'abbiamo veramente lasciato lì, sul piano poi, come dicevo prima, tattico, ma anche sul piano fisico, perché si cerca sempre questi giocatori di grandissima struttura, di grandissima statura fisica, di forza fisica, e poi vediamo che la differenza la fanno, va bene, lasciamo stare Messi, volevo dire Messi adesso, ma no, l'ha fatta parzialmente, no, ma voglio dire Sneijder stesso, David Villa stesso, sono tutti giocatori che hanno fisicità abbastanza normali dal punto di vista proprio della struttura morfologicamente parlando, però hanno delle doti di esplosività sicuramente importanti. L'Olanda ricalcherà secondo te la partita della Germania, a cui non è andata bene, la partita, non lo so, faccio per dire, dell'Inter a Barcellona, cioè starà lì a presidiare gli spazi e regalerà il pallone agli spagnoli aspettando che si incartino, aspettando di colpire, oppure farà qualcosa di diverso? Non lo penso perché loro sono convinti di avere una buona squadra e ce l'hanno realmente, è una squadra che poi fa sempre gol, è una squadra che ha in Robben e in Sneijder sicuramente i due punti di forza fondamentali, però anche l'esperienza di Van Bronckhorst, ha giocatori, Van Bommel in mezzo al campo, che è sicuramente un giocatore di esperienza e di peso. E cercheranno secondo me di fare la partita chiaramente con grande attenzione, perché in questi 90 minuti o forse magari nei 120 si giocheranno una cosa importante per tutte e due, perché sarebbe la prima volta. Sarebbe la prima volta. Opposte Olanda e Spagna, si diceva prima, Olanda un patchwork, un accampamento di zingari del pallone che arrivano lì, è una selezione nel senso più puro, no? L'Olanda invece un blocco, ragazzi che giocano insieme da 1000 anni, guardando nei dettagli, in modi opposti anche di gestire il problema centravanti, il problema attaccante. Del Bosque accantona Torres, Van Marwijk va con Van Persie fino alla fine. Gioca sul fattore della fiducia. Questo giocatore che non ha convinto fino in fondo, effettivamente. Van Persie ci si aspettava molto di più da questo mondiale. Purtroppo in questo momento qui bisogna far leva su quelle che sono le motivazioni, sul fatto dell'orgoglio, della voglia di riscatto di una partita importante che per molti potrebbe essere l'unica partita della loro carriera, quindi direi le motivazioni che fanno la differenza. Dall'altra parte, come dicevo prima, il fatto, adesso io non so se stasera Del Bosque si metterà qualcosa, però vediamo se andrà in campo, chi andrà in campo come centravanti dall'inizio, Siviglia e con la stessa formazione dell'ultima volta, oppure vediamo. Ti chiedo ancora questo, di commentare una dichiarazione di Del Bosque che ha detto: mi spiace per quelli che hanno giocato meno, però la continuità si ottiene facendo giocare gli stessi giocatori. Ma sono d'accordo, le squadre sono fatte di equilibri, sono fatte di tanti aspetti che ovviamente devono essere tenuti in debito conto. Poi è chiaro che se hai un giocatore che è in una fase particolare del torneo, che magari ha bisogno di rifiatare, cerchi di gestirlo, ma magari lo gestisci negli ultimi 20 minuti o qualcosa del genere. La domanda più difficile per ultima: chi vince? Ma io ti dico francamente tifo Spagna, anche se con grande morbidezza, però non con la bandiera in mano, certo. così per gusto, perché perché poi secondo me giocano un buon calcio, anche se poi se vincessero anche il mondiale diventa difficile tenerli. Ci credono proprio poi. Questo è uno dei motivi che mi induce invece a tifare Orange, perché dall'altra parte, se no il basket campioni del mondo, il ciclismo e il moto mondiale, poi chi li tiene più? Come fai a gestirli? È impossibile, poi sono convinti di essere il top in tutto, in todos. Grazie Gianni, buona finale. Grazie a te, un saluto a tutti. Un abbraccio. Ciao. Gianni De Biasi, Traffico, poi Luigi da Milano e Stefano pure da Milano, 800 24 00 24, numero verde. Strade in diretta. Grande raccordo anulare di Roma, code per un incidente tra via Ostiense e la Roma Fiumicino in carreggiata interna, si transita su una sola corsia. Restiamo intorno alla capitale, sulla diramazione Roma Sud, code tra San Cesare e la barriera di Roma verso il grande raccordo, anche in questo caso per un tamponamento. Sulla 5 ci sono ancora rallentamenti e code a tratti per un incidente tra Quincinetto e Ivrea in direzione di Torino. Sulla 22 del Brennero rallentamenti fra Trento Sud e Rovereto verso Modena per un incidente adesso risolto. Trafficata la 10 Genova Ventimiglia con code a tratti tra Albenga e Savona, e proseguendo verso Genova code tra Celle Ligure e la 26 dei Trafori, code a tratti verso Genova anche sulla 12 tra Chiavari e la 7 Milano-Genova. Traffico intenso poi sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code a tratti tra Riccione e Rimini e tra Forlì e Imola verso l'Autosole. In aumento gli spostamenti sulla 4 con rallentamenti tra Sirmione e Brescia verso Milano, code per traffico anche sulla 15 della Cisa tra Parma Ovest e l'Autosole in direzione di questa autostrada. E infine ci spostiamo proprio sull'Autosole e raccomandiamo massima prudenza, piogge battenti e traffico rallentato tra Anagni e Frosinone. È tutto, noi ritorniamo tra mezz'ora circa. Promo 24. Grande interesse dei commercialisti per lo studio professionale esteso. Cresce infatti il numero di commercialisti che vogliono conoscere Business Pass, lo studio professionale esteso di Passepartout. Applicazioni integrate e complete per lo studio professionale, soluzioni specifiche per le aziende, sistemi di comunicazione riservati e dati ed elaborati in tempo reale. Sito personalizzato dello studio con accesso riservato per i clienti e portale di consultazione normativa. Un unico sistema completo ed affidabile con aggiornamenti e copie di sicurezza automatici. Business Pass valorizza la professione, fidelizza i clienti, riduce i costi. Lo studio professionale esteso si trova su www.passepartout.net o all'800 41 42 43. A tempo di sport. Oh, certo che siete tremendi, eh? Mi scrivete: che significa sarebbe giusto che vincessero perché sono già arrivati due volte in finale? Io dovrei promuovere gli studenti dopo quanti tentativi? Subito, questo è un professore severo, ma non è questione di giustizia, sono arrivati lì due volte, adesso tocca loro vincere. per la loro storia, per la loro storia, non sarebbe certo blasfemo, come scrive un altro ascoltatore, Roberto da Chiavari, che nella bacheca della Federazione Olandese ci fosse una Coppa del Mondo. Per dirla in poche parole, nel 74 l'Olanda era decisamente la squadra più forte del mondo, ha affrontato la Germania padrona di casa e non è riuscita a vincere quella Coppa, pur essendo la squadra più forte del mondo. Nel 78 era probabilmente più forte dell'Argentina, ha giocato contro l'Argentina che aveva gli dèi e anche certi terrestri manigoldi dalla sua parte e ha perso la Coppa del Mondo. Per le stelle possiamo dire che l'Olanda meriterebbe un titolo per le stelle calcistiche. Se poi stasera gioca meglio la Spagna e vince la Spagna, l'ha meritato in maniera assoluta, perché gioca anche un calcio più gradevole rispetto a quello degli olandesi. Una cosa curiosa sarebbe questo successo da parte di una squadra che era più debole, non solo che è più debole, anche se paragoni epocali sono la cosa più assurda e bizzarra che ci possa essere, però la squadra del 78 era qualcosa che ha fatto leggenda, quella del 74, quella del 78 era comunque la prosecuzione di quella meno Cruyff. Questa è più debole, secondo me, anche qui il paragone è più attinente, è più debole anche di quella che nell'88 ha vinto l'Europeo con Gullit e Van Basten e poi agli Europei si è squagliata tra mille beghe interne. Qui sta la bravura di Van Marwijk, che non è un santone come Mitchell o come Ernst Happel, però è uno che è molto pragmatico, molto pratico, che è riuscito a risolvere, almeno temporaneamente, almeno per questo mese, uno dei grandi problemi storicamente degli olandesi, cioè quello di uno spogliatoio che non riesce a stare bene insieme, di persone che non riescono a stare bene insieme. Questo è costato molto agli olandesi in passato. Luigi, Milano, buonasera. Salve, buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Dovendo fare un pronostico, devo dire che sono veramente combattuto, perché da una parte la razionalità mi porterebbe a dire sicuramente Spagna, perché aveva ragione il radioascoltatore che aveva inviato l'SMS dicendo che forse l'Olanda era stata decisamente un po' fortunata. Ma lo è stata, però sfido chiunque a trovare una vincitrice di un mondiale che non abbia avuto fortuna. Assolutamente vero. E poi devo dire che c'è anche una componente emotiva, perché ho un bambino che ti fa Spagna disperatamente. E però dall'altra parte c'è la mia componente. Anch'io, emotiva. Ma io tifo Olanda. La mia componente emotiva dice Olanda, non fosse altro per portare al compimento il riscatto di Robben e Snyder, che già hanno, come posso dire, sono riscattati nella finale del Real, essendo stati degli scarti del Real Madrid. Sì. E qui vincendo contro la Spagna sicuramente sarebbero, quindi, porterebbero questo quindi, riscatto. Quindi lei dice alla faccia di Don Florentino? È d'accordo con sì, un ascoltatore, l'ascoltatore che è Giacomo, che scrive: comunque vada alla finale, c'è già uno sconfitto Florentino Perez, basti citare Del Bosque, pure lui, Robert Snyder, Villa, esempi della miopia e tutto il Barcellona che gioca nella finale nella Spagna, assolutamente, sì. Assolutamente. Grazie Luigi. Dunque, niente, io le consiglio però di fare tifo per l'Olanda, così uno tra lei e suo figlio il mondiale lo vince. Intanto, ripeto, tra poco andiamo al Tour de France, ripeto, Schleck ha vinto la tappa, Cadel Evans si è vestito di giallo, Armstrong è caduto e oggi è uscito ufficialmente, direi definitivamente, dalla classifica del Tour, perché è arrivato sul traguardo con 12 minuti di ritardo. Stefano Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Ci sono? Sì, come no. E grazie per il collegamento. Buonasera. Grazie a lei, buonasera. Io telefonavo perché al di là del pronostico io penso che se Torres è in forma vincerà la Spagna sicuramente. Ma Torres sta seduto. Gioca Pedro. Diciamo che se l'Olanda segna, per la Spagna saranno problemi, perché sì, non l'ho mai vista rimontare. Allora, questo è tutto già detto. Sì. Mi interessava avere un vostro parere, dato che vi sento super preparati, fra quanto Xavi e Schneider, le due intelligenze maggiori in campo, secondo me, dall'una e dall'altra parte, potranno fare la partita. Chi è più in forma e chi potrà più incidere visto il gioco dell'avversario? Questa è una domandona, Stefano, una domanda non da poco. Lei fa bene ad individuare in questi due giocatori cartina tornasole delle due squadre. Sono diversi, Snyder più offensivo, Xavi più regista alla Pirlo, entrambi giocatori straordinari. Io non lo so, insomma, io credo che chi sarà più decisivo tra questi due porterà la sua squadra a vincere il titolo. In questo mondiale, secondo me, ha dato di più Sneijder. Xabi ha comunque le chiavi della squadra, insomma, ha le chiavi della Spagna in tasca. Se gira lui, è quello che dà i tempi, che detta i tempi, che detta il ritmo, è quello da cui parte tutto. Dunque credo sia proprio questo il duello chiave della partita di oggi. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti. Ti chiedo subito chi vince il mondiale di calcio, così mi tolgo il pensiero e poi parliamo di Formula 1. Beh, io penso che vincerà la Spagna, per me non mi dispiacerebbe se vincesse l'Olanda. Per ragioni già dette, anche storiche. Invece la corsa di oggi a Silverstone... Beh, è stata molto divertente. E, non dimentichiamoci che questa è la pista sulla quale ho cominciato il campionato del mondo nel 50 e che nel 51 ha segnato la prima vittoria della Ferrari. Queste sono piccole cose da aggiungere al fatto che forse non tutti sanno che la pista originaria era la pista di rullaggio di un aeroporto militare che, come tutti gli aeroporti militari del periodo della Seconda Guerra Mondiale, erano a tre piste incrociate, che sono quelle che sono andate a recuperare anche adesso per fare quel prolungamento del circuito che è aumentato di 800 metri e 5.900 metri. Dopo tutta questa bella chiacchierata sugli aeroporti, io direi che la cosa più divertente è stata la feroce arrabbiatura che si è preso Webber quando gli hanno tolto l'alettone per darlo a Vettel. Sì. E quindi questo l'ha fatto partire come un razzo, per cui pur essendo in seconda posizione ha scavalcato Webber, il quale ha avuto anche la sfortuna, pare, di toccarsi con Hamilton e quindi di danneggiare la gomma, per cui doveva tornare in box, cambiare la gomma, e questo l'ha messo fuori corsa. La Red Bull di Webber è andata come una palla da schioppo. Hamilton ha dimostrato che, nonostante le pessime prove della McLaren nel venerdì e nel sabato per provare nuove parti aerodinamiche, e ritornando poi alla vecchia soluzione, è riuscito a conquistare un'ottima posizione, così come ritengo che sia stata una corsa, in un certo senso, non dico sensazionale, ma più interessante, perché il carriere dei piloti è il quarto posto conquistato da Button, che è partito quattordicesimo con questa McLaren. Certo. Che non Mario, andava. Secondo te la Ferrari, giornata disastrosa, è tagliato dunque fuori Alonso per il mondiale? 145 Hamilton, 98 punti per Alonso. Beh, ti dirò, il discorso Ferrari ha un risvolto di carattere regolamentare. Nel caso specifico, oggi effettivamente il regolamento prevederebbe che si deve cedere il posto al concorrente che si è passato, se si è saltato una chicane, una curva, come è stato. Quello che fa inferocire la Ferrari è il fatto che, come è stata nella precedente occasione quando è uscita la safety car in ritardo favorendo quindi Hamilton, anche in questo caso è stato umoristico che ci sia voluto tutto questo tempo. Certo. Per decidere che cosa si doveva dare come penalizzazione, e viene un sospetto, e cioè che non si siano i commissari di corsa che decidono, ma che prima vadano a sentire Ecclestone. Allora vediamo oggi come la mettiamo, cosa facciamo, chi diamo un vantaggio, eccetera. Quindi diciamo che questo è un regolamento in corso d'opera, che ogni gara salta fuori un problema che poi bisogna risolvere. Però al di là di questi aspetti bisogna dire che è un campionato molto interessante. Sì, perché certo, ci sono cinque piloti che possono vincere. No, certo. Poi finiti i mondiali avrà anche più spazio mediatico, io credo, come merita questo mondiale di Formula 1. Mario, io ti devo salutare perché ho GR. Ci sentiamo comunque nelle prossime settimane, naturalmente, anche perché Valentino Rossi è tornato a girare e tornerà per i prossimi appuntamenti del Moto Mondiale, ne sono certo. Grazie Mario Poltronieri, GR, poi di nuovo insieme e fino alle 20. Tempo di sport. Siamo fino alle 8 e questa sera, dopo la partita, Gigi Garanzini, questo è il piano partita di Radio 24. 800 24 00 24, il vostro numero verde, messaggi 349 238 6666. Esulando per un attimo dallo sport, è detto simpaticamente, scrive Alessandro, se l'Olanda vincesse in Sudafrica, la storia, Boeri e tutto quanto, sottolinea, si starebbe divertendo. Questo è il pensiero del nostro ascoltatore, che rimanda a questa suggestione già rivisitata nelle sere passate con Giuseppe Cruciani, non senza polemiche con gli ascoltatori. Io invece saluto e ringrazio dal Sudafrica l'inviato di Repubblica, il nostro amico Enrico Currò. Ciao Enrico. Ciao Carlo. Sensazioni tue a pochissimo dalla partita? Ma le sensazioni mie contano veramente poco. Credo che comunque dal punto di vista tecnico non ci dovrebbe essere partita se le cose andassero lisce. E cioè la Spagna è nettamente superiore a livello tecnico alla Spagna, per il semplice fatto che se davanti le due squadre in attacco più o meno si possono equivalere, il centrocampo spagnolo e la difesa spagnola sono veramente più forti di quella olandese. Va anche detto però che l'Olanda è tra tutte le squadre mondiale quella che più può mettere in difficoltà la Spagna, e non è un caso che sia arrivata in finale, perché squadra molto innamorata di se stessa. L'Olanda è invece una squadra molto concreta e se segna per prima, cosa che potrebbe anche accadere visto che dispone di due giocatori che sono tra i pochi in grado di inventare il gol da un momento all'altro come Robben e Snyder, per lo Spagna che non ha una grande facilità nel segnare la partita si potrebbe complicare. Comunque io dico qualche problema con il Sudafrica, vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento con Enrico Currò, ci perdonerete, io spero. Intanto Mario da Verona. Sì, buonasera Carlo. Buonasera. E intanto grazie della bella compagnia che ci fate. Grazie, visto che non possiamo contare sui programmi Rai, insomma, ecco. qui sì. Tendiamo un bello pietoso. Sì. Senta, io francamente la logica mi dice Spagna, perché già il fatto che abbia una difesa più solida, perlomeno dal mio punto di vista, sì, ecco, mi porterebbe a dire Spagna, però i colori dell'Olanda mi piacciono da quando sono bambino, quindi la capisco. In ogni caso sarò vincente. E certo, la capisco perfettamente, perché piacciono fin da quando ero bambino, anche a me, pur essendo innamorato anche di quegli altri che vinsero la finale del 78, ma per semplici suggestioni, perché soltanto per motivi calcistici, perché non voglio andare a rivangare mille altre questioni. Il calcio forse, insomma, lo decidiamo i nostri gusti quando eravamo bambini, e questo è ciò che lo rende così importante. Dovrebbe essere tornato Enrico Currò. Enrico, eccoci qua. Siamo riusciti a ristabilire il collegamento con te laggiù in Sudafrica. Sai, raccogliamo le suggestioni, no? di molti che amano i colori olandesi perché si ricordano di quell'Olanda. Io prima dicevo, insomma, questi potrebbero incassare un debito con la storia, e ci sono gli ascoltatori molto permalosi che dicono: ma la Spagna cosa c'entra con questa storia? È chiaro che l'Olanda andrebbe ad incassare un credito con la storia del calcio e non con la Spagna, no? Sì, questo è vero. Ricordo di chi comunque non è più giovanissimo e non è neanche vecchio, è quello di questa squadra favolosa del 64 che è rimasta un po' nell'immaginario di tutti, perché è la squadra che ha rivoluzionato per prima il calcio, il famoso calcio totale dell'Olanda di Cruyff, allenata da Rinus Michels, capovolgeva un po' i concetti che erano stati fino a quel momento inattaccabili per almeno 15-20 anni, cioè il concetto del crescere, per tradurla in italiano, a livello di calcio italiano, il numero 2 che marca il numero 11, il numero 5 che marca il numero 9, c'è cioè un calcio molto tradizionale, molto incollato alle proprie abitudini. L'Olanda queste abitudini le sconvolse completamente, facendo praticamente giocare una squadra in cui tutti facevano tutto, sì. Gli attaccanti facevano i difensori gli attaccanti, non c'erano ruoli completamente preordinati, e c'era soprattutto questo grande fuoriclasse che era Johan Cruyff. Sì. Diciamo che quella squadra stava al calcio in quel momento come i Rolling Stones stavano a Nilla Pizzi. Il senso è quello. Sì, direi che il paragone c'è stato tutto. ovviamente la sconfitta di quell'Olanda risultò tecnicamente incongrua, perché per quanto la Germania Ovest fosse molto forte, era la squadra di Beckenbauer, di Gerd Müller, di Hoeneß, del portiere Maier, l'Olanda era la squadra che aveva rivoluzionato il calcio, e quindi sembrava strano che questa squadra appunto così nuova, così divertente, che i Rolling Stones potessero perdere dalla Germania, che non era nulla Pizzi, chiaro, che sicuramente era qualcosa di più solido, di più tradizionale, di più classico. Era il massimo della classicità, insomma, era il massimo del classico. Resta un po' quella sconfitta, come dici tu, una sconfitta che negli anni avrebbe richiesto un risarcimento. A me è capitato di parlare nei giorni scorsi, di intervistare Ruud Krol, che era uno dei giocatori di quella grande Olanda, e lui è il punto messa su questo piano. Non ha parlato di vendetta, ha parlato di risarcimento. Sì. Perché sostiene che le due sconfitte del 1974 e del 1978 in Argentina fossero state dovute principalmente a una questione, cioè l'Olanda le aveva giocate quelle due finali contro due squadre che giocavano in casa, sì. Squadre che avevano delle nazioni che avevano organizzato il mondiale. Questo vale chiaramente più che per la Germania Ovest, secondo per me l'Argentina, che doveva, per motivi politici che tutti sappiamo, vincere possibilmente quel mondiale, come poi accadde, molto aiutata, ricorderai benissimo, i famosi sei gol a Quiroga in una partita molto sospetta. Certo. Però insomma, diciamo che l'Olanda vera, comunque l'Olanda che resta nell'immaginario di tutti, non è quella del 78, ma è quella del 74. È quella del 74, senza dubbio. Grazie Enrico, buon lavoro. Ciao, ti aspettiamo al tuo ritorno. 800 24 00 24, invece appuntamento con il traffico. Siete in marcia verso la finale. Traffico. Strade in diretta. Sul grande raccordo anulare di Roma code per un incidente tra la via Ostiense e la Roma Fiumicino. Sulla carreggiata interna si transita su una sola corsia. Sempre intorno alla capitale code per il traffico sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e la Barriera. Code per un incidente anche sulla 5 Torino Aosta tra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Mentre lungo la 26 dei trafori per un veicolo in avaria ci sono code tra Baveno e Carpugnino verso Genova Voltri. Traffico intenso in Liguria sulla 10, code a tratti tra Andora e Savona, e proseguendo verso Genova code tra Celle Ligure e la 26 dei trafori. Code a tratti verso Genova anche sulla 12 Genova-Livorno a partire da Chiavari. Traffico intenso e code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Forlì e Imola verso Bologna, e sulla 22 del Brennero da Trento ad Affi sulla carreggiata verso Modena. Sulla 4 rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est verso Milano, code sempre per il traffico anche sulla 15 della Cisa tra Parma Ovest e l'Autosole. Disagi per il traffico infine anche sulla 3 Salerno-Reggio Calabria verso Salerno tra Buonabitacolo e Sala Considina e tra Petina e Contursi. È tutto, noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Torniamo con Gianluca da Varese. Cosa c'è di più solido di Nilla Pizzi, che canta ancora 90 anni, ma Dio la conservi. Era solo per fare, come siete permalosi, solo per fare un parallelo, no? All'epoca in cui Nilla Pizzi cantava Papaveri e Papere, in Inghilterra stavano nascendo i Rolling Stones e i Beatles. All'epoca in cui il calcio era al massimo livello, quello giocato dalla Germania, insomma, era un calcio più classico, è arrivata l'Olanda a fare la rivoluzione dei costumi, magnificamente perdente. Forse non poteva che andare così, no? Per l'iconografia classica, questi olandesi, che erano una squadra più bella, più e più rivoluzionaria al mondo, persero il mondiale in Germania. Gianluca, buonasera. Buonasera, grazie per la telefonata innanzitutto. Dica. Io diciamo che per il mondiale, insomma, il pronostico di stasera di Spagna, anche se non la vedo poi così tanto favorita, finale come si sa è una partita particolare, e poi l'Olanda ha questa appunto buona sorte che la, tra virgolette, oltre al bel gioco condotta fino a qui, che non è da sottovalutare. E poi sono d'accordo con lei, e Cerruti mi ha preceduto dicendo che secondo me l'Olanda ha perso i discorsi mondiali più perché giocava contro i padroni di casa rispettivi che per qualsiasi altra cosa. Quest'anno il padrone di casa non c'è, quindi ci sono comunque buone possibilità anche per gli olandesi, insomma, di fare bene, di coronare un sogno. Tra l'altro una curiosità che ho visto è che l'arbitro Webb potrebbe essere un grandissimo portafortuna per Snyder in caso di vittoria. Sì, perché arbitrato la finale di Champions. Certo. Esattamente. Oppure un grandissimo porta sfortuna invece per magari Robben e Van Bommel, che magari perderebbero in caso di sconfitta. Sì. Capisce? Due quindi, competizioni in finale con lo stesso arbitro. O Webber ristabilisce le distanze, oppure affossa definitivamente i giocatori del Bayern. Insomma, vediamo, può essere una suggestione anche questa. Grazie Gianluca. Leggo messaggio, ho visto la finale 2006 con la Francia a Barcellona, ti famano tutti per noi, dunque forza Spagna. Questo è un altro dei motivi che può spingere un ascoltatore, in questo caso Franco, a tifare per la Spagna. Siamo un gruppo di militari di Marina, vinca l'Olanda forza. Io saluto questo gruppo di militari della Marina. 800240024 numero verde. Saluto anche Filippo Maria Ricci, pronto per la finale a Madrid. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Senti, prima sono stato bacchettato da Stefania, una gentile ascoltatrice di Genova, perché ho semplicemente, tra l'altro ripercorrendo quanto hai scritto oggi sulla Gazzetta, fatto della cronaca dicendo che a Bilbao ad esempio il maxischermo non ci sarà, mentre ci sarà, e ce lo raccontava anche prima Gerry De Rosa, a Pamplona, anche lì non è una notizia da poco, ma sono soltanto notizie. Tu in questi giorni ci stai dicendo che comunque questa Spagna, non so con quale profondità e non so fino a che punto, ha comunque compattato anche un paese oltre le sue divisioni. Guarda, senz'altro, io partirei da una frase di Del Bosque di ieri, quando lui dice: qui c'è un'unità che sarebbe auspicabile in tutto il paese. Per me questa è la chiave, in due sensi. Nel primo, nell'unità che c'è effettivamente all'interno della squadra, che è la chiave. Questa non è più una Spagna solo spettacolare, lo è stato a tratti in questo mondiale, no? Alla fine ha vinto le ultime tre partite 1-0, anche con difficoltà e tutto. E secondo è quello che appunto si auspica per la Spagna. Ieri a Barcellona c'è stata questa manifestazione enorme, diciamo, per l'indipendenza, per la creazione della nazione catalana. Con polemiche, adesso non entriamo nel merito politico, però oggi per la prima volta finalmente sono stati montati anche due megaschermi per diciamo vedere la partita, diciamo, per i catalani e chi tiferà Spagna, e anche hanno messo un megaschermo sponsorizzato per gli olandesi turisti e diciamo e residenti. Sì. E voglio dire, questa storia dei megaschermi è importante secondo me alla fine. E tu hai citato prima il fatto di Bilbao, in compenso c'è a Baracaldo e c'è a Vitoria, diciamo città basche importanti. Sì. Sono segnali importantissimi. Voglio dire, bisogna ricordarsi che la Spagna non gioca una partita nei Paesi Baschi da 40-45 anni, non so, insomma, tantissimo tempo, quasi mezzo secolo. Quest'anno c'è stata giocata la finale di Coppa del Re di basket. Sì. Con sonori fischi al re e tutto quanto. Il paese ha la sua, come ha i suoi problemi, anche il suo cammino. Quella di oggi può essere una pagina importante. Certo, questa è cronaca, come vede, signora. Esatto. Stefania. Filippo, cosa dicono i giornali oggi? La Spagna ha perso un pochino della sua fiducia nella marcia di avvicinamento, nel cammino verso questa partita? No. La tensione si sente, oppure tutti compatti nella loro fiducia compatti. Incrollabile? Mi piace, una delle cose più belle è lo spot della Cadena Ser, della radio, diciamo la pagina pubblicitaria che hanno comprato sui quotidiani, dice: mi dispiace Spagna, ma non c'è due senza tre, no? In riferimento alle finali perse. E quindi no, in generale c'è grande fiducia. Sì, Marca, che è il solito, è quello che esagera di più, ha già messo la stella sulla maglia addirittura. Sì, alla faccia della scaramanzia, alla faccia della scaramanzia. Però attenzione, perché dicono che la maglia è già pronta e che stasera, se devono tirare su sta coppa, la vanno a alzare con la maglia rossa con la stella. Quindi qua no, scaramanzia zero proprio. Il problema qual è? Che erano talmente pessimisti e fatalisti prima, e si piangevano addosso, così che hanno voluto cambiare questa immagine. Adesso un po' esagerano, forse. Sì, sì, sì, un po' sfidano un po' troppo gli dèi del pallone, che contano tantissimo in un mondiale, soprattutto in una finale come questa. Dicevo prima in apertura di programma, finale imprevedibile all'inizio di questo mondiale, anche se la Spagna era una delle principali favorite. E l'Olanda veniva da un biennio fatto praticamente solo di vittorie. L'ultima sconfitta nel settembre 2008, amichevole contro l'Australia. E quindi da questo punto di vista è la conclusione di un cammino meraviglioso di due squadre. Esatto, sì. La Spagna ha perso due partite su 50, mi sembra, no? Quella con gli Stati Uniti l'anno scorso e quella con la Svizzera. Attenzione, prima parlavate di Webb. Arbitrava Webb la sconfitta della Spagna con la Svizzera, eh? Sì. va ricordato. No, quindi se uno guarda effettivamente i risultati secchi di queste due squadre, teoricamente sono le due squadre migliori del mondo. Poi è chiaro che la storia non si fa solo con i risultati, però senz'altro c'era qualcosa, c'era della sostanza in queste due grandi strisce, anzi c'è della sostanza. Certo. E da lì si parte per questa finale. Come da te anticipato, Del Bosque nei giorni scorsi, Del Bosque tiene in panchina ancora Torres, non gioca Fabregas come tu ipotizzavi, viene confermato Pedro. Dall'altra parte, ho notato anche prima questo altro dettaglio, Van Marwijk invece va con il suo centravanti in crisi, cioè Van Persie, fino alla fine. Ma mi sembra corretto. Cosa? Perché Van Persie, giocare tutte con due? Van Persie. Sì, in entrambi i casi io penso. Torres a proposito di gruppo ha assorbito apparentemente, poi non è che uno è dentro lo spogliatoio, però senza problemi la sua panchina. Ci ha provato, l'ho provato, riprovato, alla fine non è andata e si è messo in panchina. Il caso di Van Persie è un pochino più complicato. Van Persie è più bizzoso e secondo me comunque è molto meno sostituibile di Torres. Cioè, Huntelaar non garantisce comunque quello che può teoricamente offrire Van Persie, mentre le soluzioni tra Pedro, Fabregas, lo stesso Llorente, alla fine nella chimica spagnola possono aiutare a sopperire al calo di forma, alla mancata forma di Torres. Un'ultima considerazione, Filippo, europei con Aragonés, poi adesso è arrivato Del Bosque il giorno dopo la fine degli europei, noi subito a dire che comunque poteva essere, c'è mille motivi per cui che ci facevano immaginare che questa fosse la scelta giusta, Spagna che può arrivare ai due massimi trionfi della sua storia con due commissari tecnici diversi, per noi che procediamo a tentoni tra esperimenti e ritorni è un'altra lezione. Sì, questa è una lezione grandissima secondo me, perché al di là delle dichiarazioni di Aragonés adesso in televisione a inizio mondiale, che comunque fanno parte del personaggio e lui diceva anche delle cose giuste, poi è chiaro che magari vista da noi uno non è abituato a sentirle certe cose, certi commenti se li tiene per sé, non li fa in televisione, però questa è una Spagna molto unita, a livello di squadra è una formazione che è un vero gruppo. Sì, una famiglia, ma sono tutti ragazzi che giocano insieme fin da quando facevano elementari o giù di lì, nelle giovani del Barcellona. Però, perché Busquets e Pedro sono arrivati adesso, due anni fa giocavano in quarta serie, sì. Hanno cambiato giocatori. C'è un dettaglio che vorrei raccontare. I giocatori importanti dell'Europeo che non sono al Mondiale, ovvero i tre del Villarreal, Diego Lopez che è il portiere di riserva, comunque collante importante, più Marco Senna, Casorla e Dani Guisa, sono stati invitati e stasera si vanno a vedere la partita. A me questo sembra un dettaglio di assoluta qualità. Certo. Perché certo. Testimonia che il gruppo viene prima di tutto, che era poi la stessa cosa che diceva Lippi, no? Noi abbiamo vinto il mondiale col gruppo 4 anni fa. Sì, e invece l'Olanda potrebbe vincerlo con un accampamento di indiani del pallone. Mi viene da dire di hippie del pallone, ma non sono più tanto hippie gli olandesi, lo erano più quelli di prima. Però comunque è gente che arriva da ogni angolo del mondo, si ritrovano per giocare in nazionale, si sopportano a fatica. Ad esempio sappiamo bene dell'antipatia di Snyder nei confronti di Van Persie. Insomma, è gente che è meglio tenere un po' separata, metterli insieme soltanto in campo e poi ognuno per i fatti suoi, filosofie diverse anche in questo caso. Sì, però è sempre stato così anche nell'Olanda, un tempo c'erano bianchi e neri, no? Certo, tempi recenti, voglio dire, non senza andare agli anni 70 dove era tutto un po' peace and love, tutti questi fiori qua, facciamo l'amore e va bene. diciamo in tempi più recenti di conflitti ce ne sono stati. L'Olanda è così, voglio dire, anche la sua storia sociale e politica, se vogliamo, è così. Sembra no il paese della tolleranza, poi ne succedono di tutti i colori e non è che proprio ci sia tutta questa armonia, no, nel paese dell'armonia. No, chiaro. Quindi va bene, anche la nazionale rappresenta fedelmente il paese. Rappresenta fedelmente il paese. Quasi rovesciati un po' i ruoli, no? Adesso è la Spagna che gioca come l'Olanda e l'Olanda che cerca di rimediare un po' a questa finale da sfavorita. Sì, no, ma ci sono mille suggestioni in questa finale che trovo bellissima, tanto più che gli olandesi, come dicevi tu, hanno sperperato qualcosa in passato con squadre anche più forti di questa, proprio perché lo spogliatoio esplodeva dopo un paio di partite del mondiale. Grazie Filippo, un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie a Filippo Maria Ricci, ci fermiamo un attimo, subito dopo parliamo con Giovanni da Cremona, Federico da Venezia, 800240024. Vedete che ho ragione quando dico che ognuno ha il suo motivo per scegliere una squadra per stasera, motivi non decisivi, però ognuno ha il suo motivo. Laura da Milano, ha giocato tutta l'Olanda al fantacalcio, quindi viva l'Olanda. Un altro ascoltatore scrive: non sapevo per chi tifare, ma ora che mi avete detto che la Spagna non è per nulla scaramantica, allora tifo per loro, contro le sciocchezze scaramantiche. 800240024, vi aspetto qui. Allora, caro il mio super consulente, dimmi come dobbiamo fare a fare un po' di selezione del personale meritocratica. Con un bel team building all'acquario di Genova, li mettiamo tutti nella vasca degli squali. Chi sopravvive, merita. Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Zolt, fulminati in azienda. Dal 22 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore, il libro rivelazione e il CD audio con la prima fiction umoristica che racconta i paradossi delle aziende. In collaborazione con Citroën DS3, anti-retro. Fate una cosa nuova, vivete la vita. Adesso! Ciao, sono Maria e ho un negozio di abbigliamento. Tra le offerte Vodafone partita IVA, ho scelto Vodafone Parla Facile ADSL. Dal cellulare faccio tutte le chiamate che mi servono. Ho un Nokia 2730, il telefono fisso e l'ADSL fino a 7 mega. E risparmio! Se hai la partita IVA, passa a Vodafone Parla Facile ADSL a soli 55 euro al mese, senza più il canone Telecom. Vieni su Vodafone.it o chiama l'800-127-777. Per me niente è meglio di Vodafone partita IVA. Vuoi aprirti le porte del lavoro? Scegli LIUC, l'Università di Castellanza. LIUC è pensata dalle imprese per le imprese. LIUC ti segue con attenzione e ti prepara in modo accurato. LIUC è internazionale, con programmi di studio all'estero. Entra subito nel mondo del lavoro. Iscriviti al test di ammissione. Vai su liuc.it. Honda Summer Dreams. Scopri Honda Jazz con sedili modulabili in 16 posizioni. Tua da 9.950 euro. Oggi anche con mini rate da 99,50 euro da gennaio 2011. Senza anticipo e spese di istruttoria. Scopri da sabato e su Honda.it. TAN 5.45 e tag medio 6.36. Mi dai la carta di credito che prenotiamo il volo? Perché sempre la mia? E dai, che ci hai fatto una testa così con sto conto corrente arancio, che è semplice. E che non paghi l'imposta del volo se accrediti lo stipendio, la pensione, questo ISC. ISC, indicatore sintetico di costo, che è a zero. Bravo, dammi la carta adesso. La nostra migliore pubblicità sono i nostri clienti. Pubblicità per i fogli informativi, la documentazione contrattuale, per il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING Direct, chiama l'848-884-884 o vai su ingdirect.it. Chiedi a chi ce l'ha. Pronto, papà? Ciao, vengo a prenderti? No, finiamo tardi. Dai, così passo anche alla ESSO. Va bene, alle 9? No. Alle 10? No, papà. A mezzanotte? Con la nuova iniziativa ESSO Self Più hai la qualità dei nostri carburanti e risparmi 6 centesimi al litro quando fai rifornimento nell'orario di chiusura. Per acquisti tramite accettatore Self Prepay, sconto sul prezzo consigliato servito. Punti vendita aderenti su esso.it. Trova la stazione ESSO Self Più vicina a te. Clicco bello! Clicco bello! IBS taglia i prezzi su 2 milioni di prodotti. IBS.it è il sito leader per la vendita online di libri, DVD, Blu-ray, CD, MP3 e videogiochi. Un motivo in più per acquistare online. Su IBS c'è. Su IBS trovi tutto. Anche l'introvabile. L'estate, clicco bello! IBS.it. In città si respira aria nuova con Lexus RX 450H Full Hybrid. 299 cavalli con emissioni e consumi da auto compatta. E solo a luglio, con full leasing di Lexus Financial Services, può essere tua a 496 euro al mese. TAG 7,15%. Fogli informativi in concessionaria. Tempo di sport. Liliana è triste, scrive via sms perché vedrà Cannavaro consegnare la coppa. Poi c'è chi di nuovo mi redarguisce, ma lei in realtà non tifa Olanda, bensì tifa contro la Spagna. Questo atteggiamento non è per nulla sportivo, come quelli della Lega che tifavano contro l'Italia. Quelli della Lega, piano con le parole, tanto per cominciare. In secondo luogo tifo, o quantomeno parteggio per chi mi pare, per i motivi che voglio, esattamente come voi. Giovanni da Cremona, buonasera. Buonasera. Volevo fare il mio pronostico. Prego. Io dico Olanda, sì, perché come disse Lippi 4 anni fa, vincerà chi ha più fame, e penso che l'Olanda abbia un credito con la storia che la porti ad essere sicuramente più motivata. Sì. E poi volevo rievocare un ricordo d'infanzia. Io a 8 anni, nel 78, ero un grande ammiratore del portiere Dino Zoff. Sì. Ero un grande ammiratore della nazionale italiana che andò in Argentina. Meravigliosa quella nazionale. Si è dovuto arrendere a 2 cannonate dei calciatori olandesi di Brands che hanno determinato l'accesso dell'Olanda in finale, e l'Italia andò a disputare la finale per il 3° e 4° posto. Sì. Tra l'altro Zoff prese, venne messo in croce, se ben si ricorda, soprattutto per quel gol preso da Hahn, e poi per quello subito da Neligno nella finale per il 3° posto, che, lo ricordavo l'altra sera, era molto simile al gol segnato da Van Bronckhorst contro l'Uruguay, quel gol meraviglioso con tiro da lontano. È chiaro che allora non c'era Jabulani, si chiamava Tango ed era bellissimo il pallone di Argentina 78, ma non era una questione di pallone. E poi anche Zoff, a proposito di rivincite, si prese la sua 4 anni dopo. Comunque l'Italia del 78, avrei voluto vedere in questo mondiale un'Italia come quella, capace di aprire delle speranze. No, avrei voluto vedere a questo mondiale un'Italia che andava lì, come ha fatto la Germania, a preparare il suo futuro. Invece abbiamo visto qualcosa di profondamente diverso. Abbiamo visto e vedremo questa sera Cannavaro restituire la Coppa. Federico, Venezia, buonasera. Buonasera. Io telefonavo per dire questo. Fondamentalmente io non ho preferenze per... Diciamo che una parte di me va per l'Olanda, una parte va per la Spagna, per questo motivo. E no, bisogna scegliere, Federico. Allora diciamo che sono più verso la Spagna, perché considero che la Spagna in questo momento sia l'Olanda del 74, un movimento calcistico unico, come diceva Sconcerti se le fa, che in questo momento non è imitabile da altre nazioni. Sì, sì. Non sono d'accordo su quello, se posso dirlo, con quello che ha detto Kroll, nel senso che secondo me l'Olanda non ha un... Non ha bisogno di un risarcimento, perché quella con la Germania non fu una partita, io me la ricordo bene perché ce l'ho anche registrata, potrei dire anche le formazioni a memoria di quella partita. Sì. Lì, però fu una partita che la Germania vinse comunque nonostante l'assalto dell'Olanda, vinse meritatamente, tra l'altro ci fu anche un gol annullato valido della Germania per il 3-1. Sì. Fu una partita che l'Olanda perse per troppa presunzione. Magari la Spagna perde per troppa presunzione stasera. Bravissimo, io volevo arrivare proprio lì. Secondo me quello che può fregare la Spagna, che poi se ci pensiamo secondo me è quello che ha fregato un po' il Barcellona con l'Inter, è la troppa presunzione secondo me. Perché questa Olanda la vedo più solida caratterialmente, nonostante i clan che ha sempre avuto problemi di clan. Sì. Però qua vedo un problema di clan inferiore rispetto alle nazionali. Ah, non c'è dubbio. Che erano molto più forti. Ma che erano esplose, a mondiale in corso, proprio perché si mettevano le mani addosso in spogliatoio. Questo prendiamo anche la nazionale 90. Ma certo, campione d'Europa in carica. Bravissimo, aveva 10 campioni in campo. Questo Olanda ha 3-4 massimo tanto campioni che... in campo e 8 onesti lavoratori. Non c'è dubbio. Grazie Federico, lei ricorda l'Olanda dell'88 in cui c'era uno dei miei 2 grandi idoli olandesi ed era Marco Van Basten, l'altro mio idolo olandese è Ellen Hidding. Tra i due preferisco la seconda, in tutta onestà. Ciao Ellen. Ciao buon pomeriggio. Che Ending, che abbiamo sentito l'altra sera, come promesso avevamo un appuntamento anche per oggi pomeriggio. Io ti voglio chiedere, sì, che sensazioni, la prima sensazione che hai avuto questa mattina quando ti sei svegliata? Di tensione, infatti io volevo dire qualcosa, adesso non mi sfugge il nome, però con il signore con quale parlava prima. Allora, Federico. Federico, chiedo scusa, c'è una cosa che mi stupisce, perché Olanda viene messa sempre un po' da parte, perché all'inizio, andiamo un po' di partite indietro, ancora prima di Brasile dicevano, ah, ma Brasile stra favorito, vincerà Brasile, andrà avanti, e ne abbiamo vinto la partita. E adesso, andando avanti, anche con questa partita qua, vedendo poi, perché poi alla fine di Spagna non è che abbiamo parlato proprio benissimo all'inizio di questo mondiale, certo, però adesso, andando avanti, siccome sono arrivati in finale, adesso tutti dicono, ah, la Spagna vincerà, che è proprio fortissimo perché ha vinto contro la Germania. Sì. Io spero tanto e confermo quello che ha detto anche il signor Federico prima, speriamo veramente tanto che abbiano questo atteggiamento, che di aver già vinto il mondiale, che magari potrebbe essere una loro fregatura, se lo possiamo assolutamente dire, la loro troppa presunzione magari la pagano, sì, e sì. Questa sera già ho dichiarato il mio tifo Orange, quindi sto dalla tua parte, Vai, bravo, anche bravo. Perché muoio dalla voglia di vedere le tue foto vestita da olandesina. Infatti la notizia corre, gira, va, infatti spesso ho ricevuto, nel senso, in questi giorni ho ricevuto parecchie telefonate e mi chiedono la conferma, appunto, se dovesse vincere Olanda, che io in questi giorni sarò in Piazza Duomo a vendere i formaggi vestita proprio come un'olandesina, ecco, perciò devo mantenere la mia promessa, giusto? Ci mancherebbe altro, le promesse si mantengono. E sono in tanti che mi vogliono vedere vestita come olandesina, vendere formaggi. Io in prima fila. Adesso vorrei farti sentire una cosa, perché noi in Italia le partite le viviamo così. Sabato 18 alle ore 20:25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Noi la viviamo così, in Olanda non lo so. Vabbè, speriamo bene. Io dico solo speriamo bene e vinca il migliore stasera. Hup, hup, Ti chiedo ancora questo, di questo tu hai scritto anche un libro di favole per bambini. Almeno un libro di favole per bambini, hai lavorato molto per i bambini. Sì. Comunque vada, questo mondiale sarà forse una favola che merita di essere raccontata ai bambini. No, questo senz'altro. Siccome adesso, vabbè, a breve dovrebbe uscire il secondo libro e poi ci sarà anche il terzo, se dovessimo vincere stasera sicuramente ci sarà una storia che sarà dedicata a questo mondiale, promesso. Bocca al lupo. Oltre al mio, quello che ho promesso di andare a vendere i formaggi vestiti come la lusina, va bene? Un abbraccio, Helen, buon viaggio. Okay, anche a voi, grazie. Grazie davvero ad Helen Hidding. Simpaticissimo, oltre che bellissima. Dunque, adesso ci fermiamo un attimo per il traffico. Io stavo, insomma, distratto da Fantozzi. Cosa mangerete questa sera? Come voglio chiedervi anche questo a voi che siete in viaggio verso questo appuntamento con la finale, che siete lì in macchina, che mi state ascoltando e che io mi auguro verrete anche a trovarmi al telefono 800 24 00 24. Come sarà la vostra serata di mondiale? È chiaro che sarà dominata dai ricordi 4 anni fa, ma 4 anni fa però era tutto molto meglio, ti ricordi? Che bella festa che abbiamo organizzato, come eravamo tesi tutti a guardarsi indietro. Ma questa sera come la vivrete? Perché io non posso credere che vi perderete soltanto nella nostalgia. Beh, adesso non esageriamo. Marco da Genova, tifo Olanda perché sono autista di autobus e le maglie sono arancioni come i mezzi della mia città, questo non ci credo. Vabbè che ognuno ha i suoi motivi del tutto legittimi per tifare per l'una o per l'altra, insindacabili e comunque non decisivi visto che non siamo direttamente parte in causa, però a questa io non ci credo. Paolo da Roma. Salve. Volevo dire, apprezzo molto questo aperitivo, mi sembra molto sano da amanti del calcio. Ci divertiamo, Paolo. propendo più per l'Olanda. Mm. E ascoltandovi ero d'accordo su, su quello che diciate, soprattutto rispetto al tributo, o meglio al, al risarcimento storico della... Sì, ma sa, ci sono ascoltatori anche qui un po' permalosi che dicono: ma cosa c'entra la Spagna? La Spagna lì, perché deve, questo risarcimento deve pagarlo la Spagna? È un risarcimento non certamente nei confronti della Spagna, ma sarebbe un risarcimento alla storia del calcio, no? Per quanto questa suggestione possa contare, cioè pochissimo. Però è chiaro che la Spagna nulla c'entra, anche se va detto che gli spagnoli, campioni del mondo in carica nel basket, campioni europei e del mondo in carica nel basket, nel calcio sono campioni europei in carica, si diventa campione del mondo anche nel calcio e poi chi li tiene più? No, sono d'accordo. L'unica cosa che vorrei dire io è che questa però è, una, è un'Olanda completamente diversa da... da quella là, quella era un'Olanda che forse, a cui assomiglia forse più la Spagna attuale. Ma sì, sicuro, questa è un'Olanda sicuro. Che secondo me è molto furba, gioca molto a corda, non ha una gran difesa, e però difende con un insieme compatto. Secondo me sarà una partita bloccata. Io purtroppo credo che la finale terzo e quarto posto, che tutti ci chiediamo perché ancora la fanno, poi alla fine ogni volta la risposta ce la dà la partita stessa, come ieri sera, dove si gioca spensierati, si vede calcio. Sì, vabbè, ma è grosso modo un'amichevole, io non la guardo mai, eh. Anche ieri sera non ho concesso però... eccezioni, non finale per il terzo e quarto posto, io sono contrario in maniera assoluta, è una cosa che a me non piace, in nessuna competizione di nessuno sport. La finale dei perdenti in cui giocano le riserve, in cui finisce 3-2, 5-4, è veramente una finale molto triste, una partita, non una finale, è una partita molto triste, quindi voto contro in maniera assoluta a queste finali risarcitorie in senso povero, insomma. Traffico poi di nuovo qui 800 24 0024 fino alle 20, e questa sera dopo la partita dalle 22:30 o dalle 23, vedremo a seconda di come va la gara, se finisce nei 90 regolamentari alle 22:30, altrimenti alle 23 il dopo partita, il dopo finale con Gigi Garanzini. A dopo. Strade in diretta. Si è verificato un incidente lungo la Firenze-Pisa-Livorno, si resta in coda per 2 chilometri tra gli svincoli di Empoli sulla carreggiata verso Firenze. Sulla stessa carreggiata code poi per il traffico tra Lavoria e Pontedera Ovest. Andiamo sulla 26 dei trafori, per un veicolo in avaria ora comunque rimosso, restano delle code tra Gravellona e Carpugnino verso Genova-Voltri. Per il traffico intenso in direzione Torino, rallentamenti sulla 5 tra San Vincente e Ivrea e code sulla 32 tra Salbertrand e Susa Ovest. In Liguria sulla 10 code a tratti tra Pietra Ligure e Savona, proseguendo verso Genova, code a tratti tra Celle Ligure e la 26 dei trafori, code a tratti verso Genova anche sulla 12 Genova-Livorno a partire da Chiavari. Traffico intenso e code a tratti anche sulla 14 Adriatica, tra Forlì e Imola verso Bologna, e sulla 22 del Brennero da Trento ad Affi verso Modena. Andiamo sulla A4 verso Milano, si resta in coda tra Peschiera e Brescia Est. Disagi per il traffico anche sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, rallentamenti verso Salerno tra Petina e Contursi, mentre in Sicilia 2 km di coda in uscita da Catania verso la 18 tra San Gregorio e l'autostrada. È tutto per il momento, Strada in diretta torna tra mezz'ora. Promo 24. Ultimissime dal mondo del software per commercialisti. Business Pass, lo studio professionale esteso di Passepartout, realizza un sogno. Finalmente un unico sistema tra studio e clienti, che evita passaggi ripetitivi e inutili perdite di tempo. Soluzioni complete e affidabili per lo studio, applicazioni specifiche e sistemi di comunicazione riservate a supporto del business dei clienti. Disponibilità dati ed elaborati in tempo reale. Sito personalizzato per lo studio e portale per l'accesso a fonti normative. Aggiornamenti e copie di sicurezza automatiche. Business Pass valorizza la professione, fidelizza i clienti, riduce i costi. Lo studio professionale esteso si trova su www.passepartout.net o all'800 41 42 43. A tempo di sport. Di questa festa finale tra alla poco. Fine it's time for Africa, anche se non sono andate in finale le squadre africane, comunque è stato il momento dell'Africa per il successo. Canta Shakira al Soccer City Stadium di Johannesburg, dove si sta per giocare la finale di Coppa del Mondo. Tifolanda perché da laziale, sentite questa. Tifolanda perché da laziale non sopporterei la festa in giallo rosso, anche se spagnola, scrive Claudio. insomma, sto raccogliendo i motivi più strani. Il più strano di tutti, anche se non ci credo, è quello dell'autista di autobus di Genova che tifo Olanda perché ha la maglia arancione come i colori degli autobus della sua città e non solo della sua città. Piadina, prosecco e rutto libero e vai Spagna, scrive un ascoltatore a proposito del menù di questa sera, del modo di vivere davanti alla TV la finale dei mondiali. Io e mia moglie tifiamo Olanda perché proprio un mese fa ci siamo sposati con legge olandese. Viva l'amore arancione, Gianni e Marianna. Andrea Zorzi, buonasera. Ciao, buonasera, ben ritrovato. Senti, non voglio farti risentire Fantozzi. l'ho sentito. Tu stasera, dove sei innanzitutto? Sto rientrando verso casa dei miei genitori in Veneto perché il nostro viaggio è finito e dovrei riuscire anche a vedere per la prima volta, lo devo confessare a bassa voce, una partita intera. Perché in questi 41 giorni abbiamo girato come dei pazzi. Bellissima esperienza, molto faticosa, e le partite abbiamo viste spesso a spizzichi e bocconi, quindi insomma non l'abbiamo visto. E stasera invece dovrei riuscire ad arrivare a casa con calma. Era ora che la smettessi di fare lo zingaro e tornassi. Senti, a casa. Ti do due numeri però, davvero, guarda. Vabbè, 41 giorni ti ho detto, 26 tappe, 5.125 chilometri. 5.125? Esatto. 74 interviste, 21.000 e passa foto scattate. 81 videocassette registrate, 321 pagine di appunti nei vari blocchi che avevo distribuito nel camper e un terabyte e mezzo di spazio disco disponibile per le foto, i video e tutto il resto. E adesso tutto questo materiale immenso di tracce di sport di questo viaggio, che cosa diventa? Dunque diventerà abbastanza in fretta un libro, un po' fotografico e un po' scritto, quindi cercheremo di mettere insieme queste tre prospettive che erano quella fotografica, che era la mia da sportivo, e quello di Elena Donaggio, che invece è una ricercatrice che si occupa di riqualificazione di zone urbane, dove lo sport ha un ruolo fondamentale, quindi cercare di mettere insieme tre approcci diversi in un libro che non sia solo fotografico, ma che non sia neanche al servizio solo delle foto. Poi vorremmo riuscire a costruire qualcosa che possa essere... Mi hanno chiamato per un sacco di tempo a parlare della mia carriera sportiva, cosa che faccio con molto piacere nelle scuole e in altre occasioni. Mi piacerebbe aggiungere un altro step, non perché questo viaggio sia in qualche modo una vittoria, però penso che sia un pezzettino interessante provare a raccontare che cos'è lo sport in modo un po' più ampio. Sicuro. E quindi aggiungendo qualche pezzo di filmato, qualche pezzo di intervista di tanti personaggi incontrati, mi piacerebbe riuscire a costruire questa piccola parte, secondo me è abbastanza interessante. Vorremmo farne anche un documentario, però su questo occorrerà trovare qualcuno che possa guidarci, perché l'impianto di un documentario deve essere serio. Certo, certo. Quindi non basta mettere insieme i pezzi, e questo ci piacerebbe farlo. E poi non ti nascondo che stiamo anche pensando al prossimo viaggio. Ah, però, sì, prossima volta però vengo anch'io. Ah, guarda, sai che sei assolutamente benvenuto, ti do due possibilità. Sì. Ce n'è una che rimarrebbe in Italia, un po' per coprire la parte che ci è mancata, che sono le isole del sud Italia, potrebbe essere a un anno dall'Olimpiadi di Londra l'occasione, secondo me non è male come idea, oppure l'altra potrebbe essere quella di andare verso l'Europa, e quindi tracce di sport in Europa per vedere un po'... Anche un confronto con quanto hai trovato in Italia, quindi sarebbe l'ideale prosecuzione di questo, di questo viaggio che hai fatto. Beh, io vado a casa e preparo lo zaino. Ah, guarda, a parte ci sono in camper, quindi se posto per te, poi sei davvero benvenuto, devi stare in giro un po', si adatta, ma su questo so che non hai problemi, si lavora molto e su questo non c'è problemi, e si conosce un sacco di gente straordinaria. E anche su questo guarda, zero problemi proprio. Andrea, intanto io ti ringrazio per aver viaggiato con noi. Grazie a voi per l'ospitalità, grazie a chi ci ha ascoltato. Noi ce ne andiamo a casa stanchi, ma veramente molto molto felici. E qui, come sai, ci vediamo presto, perché questa è casa tua. Grazie ad Andrea Zorzi. Ciao, stai bene. Grazie ad Andrea Zorzi. Adesso meglio che ci diamo al golf, anche perché Edo Molinari oggi ha vinto il Golf Scottish Open davanti a Clark, quarto Francesco Molinari, ed è un risultato molto importante, storico per il nostro golf. Tour de France, Pieragusto Stagi, buonasera. Ciao Carlo. Buonasera. Prima ho dato in cronaca semplicemente il nome del vincitore della tappa, Schleck, il nome della nuova maglia gialla, Cadel Evans, e il nome di chi oggi ha perso il Tour de France, cioè Lance Armstrong. Beh, hai dato tutto, in poche parole. Cos'è successo però? Tutta la giornata sta in questi tre nomi, forse in un quarto, che è quello che poi ha fatto tutto, che è Alberto Contador, che ha messo la frusta alla squadra quando Armstrong è andato in crisi. Armstrong oggi ha avuto probabilmente più cadute, più sfortuna di tutta la sua carriera, e gira così: quando sei forte sei baciato dagli dèi, ma oggi probabilmente la dea bendata era in vacanza, in ferie, probabilmente in qualche altro posto, non qua in Francia, ed è caduto ben 3 volte. La stana di Contador ha tirato a più non posso per tagliarlo fuori, ci è riuscito benissimo, perché Armstrong poi è giunto ad Avoriaz con un ritardo di 11 minuti e 44 secondi da Andy Schleck e Samuel Sanchez, che sono stati i due che si sono sostanzialmente giocati la tappa, 10 secondi, un gruppettino, il gruppettino dei migliori, con una decina di corridori, con appunto Gesing, Kreuziger, Alberto Contador, Cadel Evans che mette la maglia gialla, Van den Broek, Leipheimer e il nostro Ivan Basso, e anche Dennis Menchov e Carlo Sastre. Così abbiamo completato il gruppetto dei migliori. Adesso in classifica generale, Evans ha 20 secondi di vantaggio sul lussemburghese Andy Schleck, Alberto Contador è terza 1.01 e il nostro Ivan è risalito dalla 27esima posizione alla 13esima e ha un ritardo dalla maglia gialla di 2 minuti e 41 secondi. È pienamente in classifica, è Pieragusto. Pienamente in classifica, perché dobbiamo tenere presente che innanzitutto la preparazione di Ivan, che ha dovuto fare una fase di scarico dopo la vittoria del Giro d'Italia, ha fatto quindi tecnicamente anche un lavoro da un lato di scarico, dall'altro di carico, è arrivato molto imbastito in questo giro, e lui aveva detto che la prima settimana per lui era fondamentale per ritrovare il colpo di pedale e una leggerezza del colpo di pedale. Adesso domani giornata di riposo, poi martedì tappa da non sottovalutare, soprattutto perché ci sono 4 colli, 3 di seconda categoria e il Col della Madeleine, che è un hors categorie, posto a 30 km dal traguardo, quindi occhio anche alla discesa, occhio anche a Ivan Bassa, che in discesa non è un drago, ma deve difendersi, però anche quella tappa lì potrebbe far male. E poi dovremo assistere a una tappa che in sostanza sarà più così di nervi. E poi il gran finale, d'altra parte il simbolo del Tour de France, se su tutte le copertine, sul Garibaldi di Francia, sul librone del Tour de France, il manifesto del Tour, è il Tourmalet, che quest'anno compie 100 anni per il Tour de France, scoperto nel 1910, quindi il Tour ha fatto tutto e di tutto e di più per portare lì i corridori a giocarsi questo Tour de France. Il Tourmalet sarà affrontato in 2 tappe, in una sarà diciamo superato, risalito da una tappa che poi avrà esattamente l'arrivo in un altro posto, il giorno seguente invece l'arrivo sarà esattamente in cima al Tourmalet. Lì ci contiamo. Però io credo che ci conteremo anche martedì. Io credo che 2 o 3 corridori, ogni giorno si perde qualcuno, e io spero logicamente, da italiano, che Ivan Basso possa guadagnare qualche altra posizione, perlomeno entrare nei 10, essere 13esimo, per arrivare poi in quella posizione alle tappe del Tourmalet, e lì ci divertiamo. Grazie per Augusto Stagi, grazie Pier, grazie davvero. Ci fermiamo adesso per il giornale radio, poi abbiamo ancora un'ora per stare insieme, per aspettare la finale, per parlare con voi. 800 24 00 24, vi aspetto. Tempo di sport. Ci siamo abituati a tutto. Suoni, rumori di sottofondo da Johannesburg, dove c'è la cerimonia finale di questo mondiale. Non so come siete messi voi con la vostra marcia di avvicinamento verso l'appuntamento con la finale del mondiale. Noi siamo messi benissimo, tabella di marcia rispettata, è arrivato Gigi Garanzia. Sì, ciao, certo, Gigi. Certo, già, compatibilmente col traffico, eccolo qui, e Gigi Garanzini sarà con voi stasera dopo la partita. 800 24 00 24, un numero verde valido ora e valido anche stasera naturalmente, sempre Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scatretti in regia, Rosa al centralino, squadra al completo. Cristiano da Modena, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, intanto volevo dire, spero, io tiferò Olanda questa sera, per la finale di stasera Olanda tutta la vita. Perché? Ah, perché io ho vissuto nel 2006, l'anno del nostro mondiale, io vivevo in Spagna. Sì. E lavoravo in un bar, facevo il cameriere, e questi spagnoli me le hanno fatte patire. Dopo, chiaramente, l'ho avuta vinta io l'anno scorso, il 2006. Quest'anno, purtroppo, cioè quest'anno per fortuna, ritornerò in quel paese che è vicino al mare, tornerò in vacanza. Sì. E qualora vincesse la Spagna, io farò una vacanza che tutti i giorni mi dovrò sentire dire: siamo i campioni del mondo, siamo i campioni del mondo. Sì. E allora per una settimana intera, diciamo che mi romperanno le scatole se vinceranno questa finale. Allora io tiferò Olanda. Tifo Olanda, così va in vacanza, così va in vacanza tranquillo. Ognuno ha i suoi motivi. No, io lo faccio, poi sarò ugualmente contento se vinceranno. Ma sì, ma che discussione, si tratta di scegliere un po', di conquistare questa sera in questa finale che non ci riguarda vicino, certo. per nulla, no? Se non per un giocatore. Io ho passato quel paio di settimane successive alla finale del 2006 tra la Costa Azzurra e la Provenza. Credo che tra Materazzi e Zidane fosse successo qualcosa di leggermente più colorito di quello che può accadere stasera. Poi, per carità, il calcio è imponderabile, ma credo che fosse un pochino più greve la situazione. Non avevo alcun problema, anche perché io stavo con Zidane e non con Materazzi, quindi capisci che... Ma non lo facevo per dovere di ospitalità, lo facevo perché insomma la pensavo così allora, e non cambierò mai idea, passassero dei secoli, ecco, tutto lì. Senti Gigi, quindi... io invece volevo sentire la tua, perché io allora nel 74 avevo 6 anni, quella squadra io non me la ricordo, l'ho conosciuta attraverso i racconti di tutti quelli che me ne hanno parlato, di tutti quelli che ho letto, te compreso, insomma, ed è così che per me è diventata una favola quella squadra del 74. Lo capisco, perché io credo l'emozione tolta l'Italia, evidentemente, no? Tolti i coinvolgimenti personali, se parliamo di estetica del calcio, io purtroppo per ragioni anagrafiche ne ho viste tante, e quindi sì, i grandi Brasile, quello del 70, anche quello del 58 che ricordo in maniera un po' vaga, però la sensazione di rivoluzione, cioè la sensazione di qualcosa di nuovo davvero, ma di nuovo, di profondamente diverso, che diede quella squadra del 74, non c'è mai più stata dopo nel calcio. Perché questi davvero erano un'altra cosa. E oggi, ieri sera, stanotte, insomma, perché poi Sky sui canali appositi danno, no, questi revival, sì, in questo periodo. L'ho rivista, ma rivedendo soltanto i gol, rivedendo gli spezzoni, non hai la sensazione di che cos'era davvero. Perché quello che invece sarebbe impressionante a rivedere sarebbe la partita intera, sarebbero le cosiddette fasi di stanca, no? Sì. In cui questi erano davvero un'altra cosa. Loro avevano cambiato il modo di stare in campo, di giocare a calcio, di interpretare i ruoli. Tuttora i grandi tecnici che allora c'erano e che vissero quella rivoluzione, ti faccio il nome di Berzot per dirne uno, tuttora loro ti dicono che cambiò davvero qualcosa, cioè che c'era stato un calcio fino ad allora e ce ne fu uno dopo. Quello che c'era stato fino allora, in sintesi estrema, era il calcio degli specialisti, sì, in cui uno faceva l'ala, uno faceva lo stopper, l'altro faceva il libero, l'altro faceva centravanti, eccetera. Da lì in avanti è arrivato il calcio dei polivalenti. Ora, loro erano polivalenti al 100%, perché Cruyff, che era Cruyff, ogni tanto te lo trovai a fare il mediano e un attimo dopo era fare il centravanti. Ma poi questo concetto di polivalenza è rimasto nel calcio successivo, tant'è vero che oggi è difficile trovare un giocatore che sappia fare una cosa soltanto. Sì, no? Sì, certo. E in ogni caso nell'Olanda no, tant'è vero che Snyder fa il centrocampista normale, fa la mezza punta, fa l'attaccante, Robben fa l'ala larghissima da una parte piuttosto che dall'altra, ma quando è in mezzo ti fa un gol da centravanti di testa come l'altra sera. Coit è un giocatore universale, mi sembra per eccellenza, sì, proprio. E anche quelli dietro che giocano, cioè Van Bommel, gioca nell'Olanda in una maniera diversa da quella in cui gioca nel Bayern. Poi è chiaro che quella fu anche, in questo concetto di polivalenza e di azzeramento dei ruoli, fu anche una generazione benedetta, perché c'erano straordinari giocatori. Ci vediamo per il traffico, poi continuiamo a parlarne. Sandro, provincia di Frosinone, Ciro da Napoli, prossimi due ascoltatori. Strade in diretta. Si è verificato un incidente lungo la Firenze-Pisa-Livorno, si resta in coda tra gli svincoli di Empoli sulla carreggiata verso Firenze, sulla stessa carreggiata code per il traffico tra Lavoria e Pontedera Ovest. Lungo la 26 dei Trafori code tra Gravellone e Carpugnino verso Genova, verso Torino code sulla 32 tra San Bertrand e Susa Ovest. Verso Milano traffico rallentato sulla 4 Torino-Milano tra Greggio e Novara Ovest e code verso Brescia tra Peschiera e Brescia Est. In Liguria sulla 10 code a tratti tra Finale Ligure e Savona, proseguendo verso Genova code tra Celle Ligure e la 26 dei Trafori. Code a tratti verso Genova anche sulla 12 a partire da Chiavari. Traffico intenso e code a tratti anche sulla 14 tra Forlì e Imola verso Bologna e sulla 22 del Brennero da Trento ad Affi verso Modena. Alle porte di Roma code verso le barriere autostradali sulla diramazione Roma Sud, lungo la Roma Civitavecchia e sulla Pontina verso il Grande Raccordo Anulare. In Sicilia lungo la 18 Messina-Catania code tra Cireale e la barriera di Catania. È tutto, noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Sandro, provincia di Frosinone. Sì, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, stiamo anche noi tornando dalla giornata al mare, un po' di traffico, speriamo di fare tempo per vedere questa grande finale. Anche se io farò, credo, il tifo per l'Olanda, pensando comunque che la Spagna sia favorita. Mi abbassi la radio e poi mi dice perché fa il tifo per l'Olanda. Grazie. Farò il tifo per l'Olanda perché per due motivi essenzialmente, anche se credo che la Spagna sia favorita per quello che ha dimostrato nell'ultima partita, anche se poi le partite finali sono un mondo a sé. Semplice ragione, innanzitutto perché la Spagna, se dovesse vincere, potrebbe diventare una plenipotenziaria in Europa perché avrebbe il doppio titolo, cosa che sposterebbe inevitabilmente l'attenzione sul calcio spagnolo, che già lo ha per numerosi campioni che dall'Italia l'ultimo sono volati via e quindi catalizzerebbe questo. Sono già campioni d'Europa, aggiungerebbero a quel titolo quello mondiale, e in entrambi i casi è una prima volta assoluta. Ricordavo prima che sono campioni d'Europa e del mondo in carica anche nel basket. Dunque completerebbero questo ciclo, questo circolo virtuoso. Io volevo con Gigi Garanzini invece tornare, perché mi intriga da morire, ai Rolling Stones. I Rolling Stones in arancione. E c'è uno di quei Rolling Stones, cioè Kroll, che ha parlato di risarcimento. Sarebbe un titolo risarcitorio. È corretto secondo te oppure no? Entro certi limiti sì, risarcimento sì, però sarebbe anche un paradosso. Allora, risarcimento è sottinteso, no? Nel senso che loro quel titolo lo meritavano tutti e due i mondiali, però mentre nel 78 gli fu un po' rubacchiato in finale, anche perché arbitrava un italiano che si chiamava Gonella e che non, al di là di un arbitraggio casalingo, e questo lo posso anche capire perché si giocava in casa dei generali e i generali ha cominciato a vedere una schierata in tribuna e non era esattamente una situazione facile. Quindi una certa aria casalinga ci poteva stare. Quando però vidi i denti di Neskens sul prato, i denti tirati giù dalla gomitata di Passarella, che Gonella non poteva non aver visto, perché se l'abbiamo vista noi di qua, di là dall'oceano, e con le televisioni di allora, con le riprese di allora, non quelle di oggi, forse qualcosina di più si poteva vedere, no? Quindi quella del fu un verdetto ingiusto, veramente, quello del, secondo me almeno, quello del 78, anche contando la sfortuna del palo di Rensenbrink al 90esimo, all'ultima palla, eccetera. Sì, nonostante tutto questo, magari Rensenbrink aveva la scarpa avanzata in un altro modo, la palla va dentro, lui vince il titolo di capocannoniere. Avrei guadagnato anche un sacco di soldi dell'epoca, tra l'altro, se lo vinceva Rensenbrink anziché Kempes, perché lo vinse invece Kempes facendo poi gol nel supplementare. Insomma, al di là di quello, nel 74 invece lo meritavano ancora di più, perché era lì la vera rivoluzione dell'Olanda, e l'Olanda del 74 era molto più forte di quella del 78. Però è anche vero che quando perdi una finale e nella squadra dall'altra parte c'è un portiere come Maier, gioca Beckenbauer libero, gioca Breitner terzino sinistro, ma in realtà regista un po' come Leo Junior nel Brasile anni dopo, gioca Overath che era un grande campione, forse un fuoriclasse, gioca Müller, uno dei più grandi centravanti di tutti i tempi. Insomma, diventa un po' difficile dire che la Germania non meritasse il titolo, lo meritava l'Olanda come percorso, come novità, come immediatezza, come freschezza. Allora, questo è un indennizzo. Il paradosso qual è? Il paradosso è che l'Olanda stasera, se batte la Spagna, toglie alla Spagna quello che l'Olanda perse allora, in un certo senso. Certo. Cioè il titolo che arriva a sancire il merito di un gioco più bello, di un gioco superiore. Perché oggi la Spagna, oggettivamente, in Europa e secondo me nel mondo, gioca il calcio migliore. Poi questo calcio diventa stucchevole quando non sono in giornata, quando tutto quello che vogliamo, stucchevole e anche vulnerabile. Ma quando loro sono in giornata, e succede spesso, è più facile che tu paghi il biglietto volentieri per vedere giocare degli spagnoli che non degli altri. Poi sono passate anche varie edizioni dell'Olanda che erano più forti di questa. Certo, no? Quella dell'88, campione d'Europa, Gullit, Van Basten, eccetera, eccetera. Però è stato qui bravo Van Marwijk, no? Le altre Olanda avevano in panchina anche un santone, Michels 74, Appel 78, poi torna Michels e vince l'europeo. Certo. Questi hanno in panchina un allenatore normale. Normale, no? È il momento dei normal one, evidentemente, sì. Perlomeno nelle nazionali, perché è difficile dire se sia più normale lui o più normale Del Bosque, no? Certo. Nel senso di persone normali, semplici, che non strillano, che non hanno inventato il calcio, che non fanno il gesto delle manette, cioè gente che insegna a giocare a calcio, che cerca di assemblare il meglio che c'è senza per questo dichiarare guerra al mondo, no? e facendo giocare le loro squadre bene, vincendo senza isterie loro trasmesse alla squadra. Io preferisco ancora la Spagna, anche perché il suo gioco è estremamente corretto, e questo secondo me è un dato di fatto, un valore in più. Scappa ogni tanto il tacchetto a Sergio Ramos, sì. Direi che è il giocatore più bizzarro e un po' più scorretto ogni tanto, non sempre, della squadra. Ma trovo che l'eleganza con cui Xavi, Iniesta, anche Xabi Alonso, ogni tanto addirittura si scansano quando capiscono che potrebbero fare un fallo brutto, no? Perché sono in leggero ritardo. Io lo trovo un segnale in più di classe. Detto questo, l'Olanda, con la sola eccezione di Van Bommel, non è affatto una squadra di scarponi. In passato lo è stata. Sì, state edizioni olandesi molto brutte da quel punto di vista lì. Mi pare una squadra a sua volta elegante, corretta. Io credo che comunque vada a finire stasera, il calcio ne ha da guadagnare con un campione del mondo di questo tipo e di questa levatura. Forse se è la Spagna ci guadagna anche un filo di più, ecco. Ciro, Napoli. Buonasera. Allora, io stasera tifo fortissimamente per Olanda, perché essendo del 69 sono cresciuto col mito della grande Olanda. Non ricordo quella del 74 con 5 anni, però ricordo abbastanza bene quella del 78 anche senza Cruyff. Poi mi ricordo quando ero piccolo giocavo con un pallone, si chiamava Super Santos, ed era arancione, quindi sì, aiutava. Poi abbiamo più o meno la stessa età anch'io. Poi l'Olanda, come dicevo prima, quell'Olanda, insomma, siamo affezionati a quell'Olanda perché l'abbiamo conosciuta come una favola, no? Come sì. Una favola raccontata da grandi scrittori di calcio, no? Certo. Quindi è lì, abbiamo visto i filmati, non l'abbiamo visto in presa diretta, ma l'abbiamo imparata un po' sui libri. Questo aggiunge fascino, secondo me, per certo. Al di là di quel pallone che avevo anch'io. Poi, e poi dalle anomalie, tra virgolette, che aveva quell'Olanda, dal 14, dal numero 14 di Cruyff, sì. Dalla maglietta di Cruyff che era diversa per questioni di sponsor rispetto agli altri, dal braccio fasciato di Van de Kerkhoff in una partita dei mondiali. Sì, poi sì. Posso ricordare Kroll quando venne a giocare a Napoli, mi ricordo un particolare, giocava con un attaccante, si chiamava Pellegrini. Sì. Pellegrini voleva la palla e Kroll gli diceva vai, vai, vai, vai, vai. Pellegrini si girava e Kroll sempre vai, vai, vai. Improvviso partì il lancio, Pellegrini era lì, palla dietro la nuca a Pellegrini che rimase un attimino interdetto. E poi dopo si vince l'Olanda, signori miei, il pallone d'oro bisogna darlo a Snyder. Da interista sì. Bisogna darlo a Snyder. Che è l'unico rappresentante che c'è rimasto in questa certo. Finale da moltissime edizioni del Mondiale, che l'Italia non è rappresentata in maniera così scarsa come in questa occasione. Sì, mi piace molto questa suggestione di Kroll, perché dà l'idea di che squadra fosse quella. Allora, quando Kroll è venuto a giocare in Italia, e a Napoli in particolare, e l'abbiamo conosciuto più da vicino, abbiamo visto che giocatore fosse. Un giocatore strepitoso, ma strepitoso, sì, vero, sì. Nel senso di senso della posizione, chiusura, organizzazione della difesa, capacità di lancio, quindi di ribaltamento dell'azione, un grande campione. Il Kroll dell'Olanda, dell'arancia meccanica, era uno qualunque, era uno che non spiccava, cioè il fenomeno era Cruyff, ma gli altri 2, 3, 4 che tu coglievi per primi erano Neskens, era Kaiser. Rep, era Kaiser, Kroll era uno che, per carità, era uno che vedevi che era un signor giocatore, ma non era di quelli che ti colpivano. Quindi pensa qual era il livello di quella squadra. Beh, però vedi Gigi quante suggestioni quella squadra ha lasciato in gente della mia generazione che non l'ha conosciuta direttamente, no? E quindi qui torna la funzione il pensiero risarcitorio di Rucco senza nulla togliere alla Spagna. Ma anche nella mia, ma io feci una malattia la sera di quella finale perché era la suggestione che quella sfida avrebbe vinta l'Olanda, parlo del 74. Sì. L'avrebbe l'Olanda, era fortissima, era praticamente ineluttabile, perché poi era stata una marcia in crescendo, una marcia praticamente trionfale. Quando loro, dopo 15 passaggi consecutivi, dopo aver battuto il calcio all'inizio, a un certo punto fermano il pallone, perché l'ho rivisto esattamente l'altro giorno, c'era chi diceva 25, 32, insomma, sono 15, ricontati. Al 15° tocco di possesso palla loro, un po' avanti, un po' indietro, che la palla la danno a Cruyff, ma non è un passaggio, perché Cruyff la ferma ed è 10 metri oltre metà campo. La ferma e si guarda intorno come, no, come annusare l'aria. E poi parte come una scheggia impazzita. Parte, ma parte dritto, verticale, ne salta 3 e quando arriva in area Fox, che era quello che lo marcava, ormai l'ha tagliato fuori. E c'è sta gamba di Dieter Müller, che è mezzo metro dentro l'area, bravissimo l'arbitro a vedere il posto, che lo fa. Quando Neskens spacca la rete con sta bordata dell'1-0 al secondo minuto di gioco e i tedeschi non hanno preso la palla, arrivederci, no? Insomma, alla fine. È fatto. Ecco, vederli rimontati, ma soprattutto vedere che loro per primi hanno pensato di aver vinto la partita dopo 2 minuti e non sono stati capaci invece di capire che per vincere bisognava farne di più, bisognava insistere, è stata una delusione enorme. Ma forse è diventata così leggendaria anche perché è perdente quella squadra. Può darsi, può darsi. Sto guardando Platini, che mi sembra che abbia una cera migliore finalmente, era inquadrato adesso e stava arrivando nel garage, perché insomma tutto sommato a 55 anni era un discreto spavento l'altra sera. Sì, quando si è diffusa la notizia. Dunque, ci fermiamo adesso perché c'è il giornale radio delle 19.30, subito dopo ripartiamo fino alle 20 insieme. Benvenuto nel servizio clienti Quixa. Sono qui sul sito, vorrei fare un preventivo per una nuova polizza. Inserisca il numero di targa e la data di nascita. La mia data di nascita? Deve mettere 1942, cioè per esempio. Io sono un po' più giovane, Marco, scusi. Provo con un altro anno. Scegli anche tu Quixa, l'assicurazione auto online che ti offre un consulente personale dedicato. E da oggi per fare un preventivo RC Auto bastano numero di targa e data di nascita. Vai sul sito quixa.it. Quixa, diretta, personale, AXA. Ciao, sono Maria e ho un negozio di abbigliamento. Tra le offerte Vodafone partita IVA, ho scelto Vodafone Parla Facile ADSL. Dal cellulare faccio tutte le chiamate che mi servono. Ho un Nokia 2730, il telefono fisso e l'ADSL fino a 7 mega. E risparmio! Se hai la partita IVA, passa a Vodafone Parla Facile ADSL a soli 55 euro al mese, senza più il canone Telecom. Vieni su Vodafone.it o chiama l'800-127-777. Per me niente è meglio di Vodafone partita IVA. Mare Blu, vero sapore. Compatti tranci di tonno cotti al vapore con solo un filo d'olio extravergine di oliva. Mare Blu, vero sapore. Il gusto vero del tonno. Honda Summer Greens. Scopri Honda Jazz con sedili modulabili in 16 posizioni. Tua da 9.950 euro. Oggi anche con mini rate da 99,50 euro da gennaio 2011. Senza anticipo e spese di istruttoria. Scopri da sabato e su Honda.it. Dan 5.45 e tag medio 6.36. GR24, il sole 24 ore. Edizione delle 19.30, ancora una buona serata da Stefano Totoro e dalla redazione. Tutto pronto al Soccer City Stadium di Johannesburg per la finalissima dei mondiali 2010 fra Olanda e Spagna. Poco fa la cerimonia di chiusura con la straordinaria partecipazione di Nelson Mandela, è arrivato a bordo di una piccola automobile scoperta sul campo dello stadio e ha salutato il pubblico. Vinca l'una o l'altra, per entrambe le squadre si tratterebbe del primo titolo mondiale. Naturalmente vi daremo gli aggiornamenti sulla partita in tutte le edizioni edizione di GR24. Torniamo in Italia con la politica. Sono ore di fibrillazione all'interno della maggioranza. Renato Schifani si toglie i panni di presidente del Senato e indossa quelli di osservatore politico. Sul rapporto fra Berlusconi e Fini dice: o si arriva quanto prima a una pace strategica con un ritorno alle motivazioni dello stare insieme, o sarà una rottura traumatica. La manovra economica, nessuna rottura fra le regioni, lo ribadisce il presidente della conferenza Vasco Errani. Il nostro giudizio, dice Errani, è fermo e chiaro, la manovra così com'è non è sostenibile. L'appello al governo: ascolti le nostre ragioni. La cronaca: è stato trovato morto in un canale a Neck nei pressi di Amsterdam Simone Recrosio, un cuoco di 22 anni di Ronco Canavese in provincia di Torino. La polizia non esclude nessuna ipotesi incidente, suicidio o omicidio. In chiusura la Formula 1, Mark Webber ha vinto il GP di Gran Bretagna di Formula 1, il pilota della Red Bull sul traguardo ha preceduto Hamilton. Rosberg, quarta la McLaren di Button, fuori dalla zona punti le Ferrari di Fernando Alonso e Felipe Massa. È tutto, il GR torna alle 20. Bilancio. Annual Report. Agostini Associati. Traduzioni finanziarie di bilanci, semestrali, prospetti informativi. Chiama subito 800-984424. agostiniassociati.it. Traduzioni professionali in 100 lingue. Nuova Fiat Bravo. Nuovo motore multi-air Euro 5 da 140 cavalli, sistema start and stop e nuovi interni. Sicurezza al vertice della categoria, 5 stelle Euro NCAP, 7 airbag. Oggi tutti questi numeri possono essere tuoi. Con l'Eco Estate Fiat, nuova Bravo da 14.500 euro, con radio MP3, ESP e clima, più finanziamento, anticipo zero e tasso zero. Tag 1,94, salvo approvazione SAVA, iniziativa valida in caso di rottamazione fino al 31 luglio. I numeri non sono mai stati così belli. Musica, danza, capoeira, così in 20 anni Progetto Ashe in Brasile ha recuperato 18.000 bambini e ragazzi di strada. Garantiamo loro dignità e istruzione, ma è attraverso l'arte che insegniamo a sognare e diamo loro un futuro. Tu con un SMS al 45593 puoi darci la forza di continuare. Fino al 25 luglio dona un euro con un SMS da cellulare personale TIM, Vodafone, Wind e 3 o 2 euro chiamando da rete fissa Telecom Italia. 45593, axeitalia.net. Benvenuto alla Esso, signore. Facciamo il pieno? E dai, papà, è ora di pranzo. Ho fame. Con la nuova iniziativa Esso Self Più hai la qualità dei nostri carburanti e risparmi 6 centesimi al litro quando fai rifornimento nell'orario di chiusura. Per acquisti tramite accettatore Self Prepay, sconto sul prezzo consigliato servito. Punti vendita aderenti su esso.it. Trova la stazione Esso Self Più vicino a te. Tempo di sport. Nelson Mandela è comparso, come aveva promesso, al Soccer City Stadium per salutare la sua gente. Comparsa breve, se ne andrà, non so se se n'è già andato, comunque se ne andrà prima della partita. Vi ho chiesto che vivrete la serata tifo Spagna, perché mi piace la paella, la cerveza, Malvina, oppure melone tanto prosciutto da mettere sugli occhi a mio marito per non fargli vedere Shakira, scrive Viviana. Sempre con me invece Gigi Garanzini. Vincenzo dalla provincia di Ascoli. Buonasera. Salve, dica. Tanti complimenti per la compagnia che ci fate. E io ti farò per la Spagna, perché secondo me sono contento che la finale è per due squadre che non hanno mai vinto un mondiale, quindi sarà un'emozione in più per loro, e noi nel 24, quindi. Sì. E il discorso è che sono squadre che stanno meglio, e chiaramente la Spagna c'ha un qualcosa in più, però sono convinto che possa spuntare l'Olanda. Perché? Perché c'è qualcosa che non è, cioè il calcio è anomalo, e secondo me finirà con una vittoria dell'Olanda. No, ma è estremamente incerta, perché è chiaro che la Spagna è favorita, però notavamo prima, Gigi, la Spagna non è mai andata sotto in questo mondiale, se non la partita con la Svizzera l'ha persa. Sì, quando è andata sotto non è riuscita a rimediare, però non aveva giocato una brutta partita quel giorno lì. Secondo me le partite peggiori, insomma, le meno brillanti che ha giocato sono state successive. Lì non era partita male, ha reagito anche abbastanza bene, insomma. Ho visto che le due squadre, le due formazioni sono confermate, quindi questo vuol dire che tutte e due, sai, ci sono dei punti in comune, no? Tutte e due hanno cambiato poco, per non dire nulla, in questo mondiale. L'Olanda solo se costretta da squalifiche e da infortuni. La Spagna ha cambiato qualcosa di più all'inizio proprio per via di quella sconfitta. Era entrato l'ala del Siviglia, mi pare si chiama Navas, no? Sì. Che cosa? Poi vabbè, Torres è entrato e uscito, ma evidentemente non è ancora lui, infatti gioca giustamente Pedro anche stasera. Si è visto per un pochino quel Llorente, che probabilmente sarebbe uno che potremmo rivedere stasera a un certo punto nel caso la Spagna dovesse andare in svantaggio, perché mi sembra uno che sta bene e anche uno che dà respiro e potenza alla squadra davanti, no? E permette, certo, a tutti i nanerottoli di salire in palleggio magari più tranquilli. Quindi il fatto che le squadre siano confermate, che tutte e due hanno cambiato pochissimo, vuol dire che comunque una loro linea, una loro cifra di gioco e idee chiare ce l'avevano. Da parte del Bosch, hai detto, no? Mi spiace per quelli che hanno giocato meno, che non hanno giocato, però la continuità si ottiene così, certo, facendo giocare una squadra base. Ma no, io non ho dubbi su questo, soprattutto quando sei convinto di una squadra, l'hai collaudata nel tempo, negli anni. Olanda e Spagna hanno fatto... Beh, la Spagna è già campione d'Europa, ma la stessa Olanda ha fatto un girone di qualificazione brillantissimo, non hanno sbagliato quasi mai, certo, hanno praticamente sempre vinto, e quindi è ovvio che arrivi bello collaudato. Parlava di emozioni questo ascoltatore, ma anche quelle di prima. Beh, io dico che quando si gioca una finale emozionante come quella del terzo posto di ieri sera, cioè la finale diciamo più insignificante che possa esserci, la partita con meno impaglio, e però riesci a vedere una partita bella e appassionante come quella di ieri, e addirittura emozionarti all'ultimo istante quando Forlan scheggia quella traversa, che sarebbe stata la palla del 3-3 per l'Uruguay e anche per la Germania, perché a quel punto c'erano i supplementari, ma anche la palla del suo titolo di capocannoniere, perché, sì, perché sarebbe arrivato a 6 e stasera dovevano, vediamo, ancora far gol poi Sneijder o Vigna, no? E bello, bellissimo, secondo me è tutto bello. Dunque, con grande amarezza ci siamo persi tutti i salotti televisivi, no? Ce li facciamo raccontare da Antonio Di Pollina, cosa dici? Ah, potrebbe essere un'idea, se c'è Deep in linea. Ciao Antonio. Ciao, ciao. Buonasera. Da dove cominci? Beati voi. No, sono stremato. Vi dico solo che ieri sera verso 00:20 sono stati fatti 10 minuti su notti mondiali, affrontando finalmente il tema. Perché Löw ha quei maglioncini, ha quelle sciarpine, ma non è che per caso Löw e così via, citando Serse Cosmi, che era assente peraltro e che secondo me si è un po' arrabbiato, così, come ispiratore di questa teoria. Cioè, siamo a questo. Adesso andiamo in campo, giochiamo e poi basta. Cioè, siamo al rilancio di una teoria di Cosmi in contumacia, peraltro. Sì, esattamente quella. E la teoria era quella. Ma Löw ha anche lucida labbra, l'avete notato? Hai capito. Io francamente non l'avevo notato. Quindi e adesso hai sospetto. Mi sono sentito un po'... scavalcato. Ma tutto questo avveniva nello studio degli scienziati a Johannesburg o alla casa di riposo a Piazza di Siena? Nella prima che ho detto, sì, certo. Che... Non oso pensare cosa sarebbe successo con lo stesso argomento dall'altra parte. Dall'altra parte, certo. Anche perché c'era Monica Setta ospite. Ah! E quindi, siamo già su una china pericolosa, ti riaffido a Carlo. Senti, ma del polpo cosa si è detto? Immagino delle cose mirabolanti. Sì, assolutamente. Costanzo e Galeazzi adesso si sono inventati che hanno un polpo loro a Tor Vaianica e mandano delle immagini di un polpo sott'acqua che potrebbe essere ovunque, e che va da una parte all'altra, cioè ormai siamo a un surreale spaventoso. Sì. Poi quando ho visto sbucare anche lo scimpanzé Pino ho capito che davvero non ce n'era più per nessuno, e davvero andiamo a chiudere tutta questa cosa con una grande finale, e poi basta. Va anche detto che senza il polpo colpo non si capisce come avrebbero, cioè, come sarebbero arrivati alla fine. Tutto. Molto significativa una frase di Cosmi l'altro giorno, dopo 10 minuti di discussione sul colpo, ha detto guardate dove siamo andati a finire per colpa dell'eliminazione precoce dell'Italia. E fondamentalmente il teorema, cioè, ci sta. Pensa a te cosa siamo persi. No, ho letto, mi pare sia stamattina, Antoine, nella rubrica di stamattina, che tu scrivi, e io lo condivido in pieno, che quando finisce un mondiale, cioè ti è piaciuto talmente, ti ha coinvolto talmente, correggimi se sbaglio, se ho capito male, uh-huh, o se ho letto, ti coinvolge talmente che ti domandi come farai per 3 anni e 11 mesi a fare a meno di uno spettacolo così. Poi pensi a tutto lo svacco che ci hanno costruito sopra e dici: forse 3 anni e 11 mesi sono ancora pochi. La teoria è esattamente questa. Come mi sento io in questo momento? Ho citato il copyright perché è esattamente quello che tu hai scritto, è esattamente quello che provo io. Nel senso che io ho già provato anche a almanaccare se non sarebbe possibile provare a proporre un'edizione ogni 2 anni, e cioè a provare a chiedere alla FIFA, a buttar lì alla FIFA, di dire: ma e se lasciassimo perdere l'Europeo, la Coppa America, mezza Coppa d'Africa, insomma, e un po' di queste cose, e giocassimo. Poi però ci sono le Olimpiadi, cioè ci sono i giochi senza frontiere a 5 cerchi, no? E quindi credo che sbatterebbero lì, cosa dici? Sì, sarebbe un po' complicato poi metterci dentro anche la Coppa America dei sudamericani, cioè bisognerebbe fare un po' di piazza pulita, ma insisto che lo spauracchio principale però sarebbero le trasmissioni di sì, commento, quindi sì, certo. Così, cioè bisognerebbe fare a quel punto non smantellerebbero neanche i cast, cioè li terrebbero di 2 anni. Cosa? Ma di fronte a molte proteste che sono partite del genere, la RAI ha mandato troppi inviati, cioè il problema è che non è che li ha mandati, il problema è che adesso tornano e allora si ricomincia così a tempi brevi con campionato e tutto quanto. Insomma, mi sembra che dalle notti magiche del 90 io non oso pensare come possa essere l'edizione brasiliana del 2010, no? Sarà chi è questa? Beh, io ricordando quando fecero il sorteggio e assegnarono al Brasile, l'entusiasmo assoluto dei giornalisti presenti, soprattutto dei maschi direi, sì, che si alzarono e si abbracciarono commossi piangendo e tutto quanto, un'idea possiamo farcela, direi. Sì, della PIL che avrà la prossima edizione, insomma. Esattamente. Sì, il problema è che un 2/3 buono della spedizione RAI nel frattempo, per carità, sempre augurando il massimo della lunga vita eccetera, però potrebbero avere ancora qualche problemino in più, come dire, anche di continenza, no? Su. Perché va bene, ma lì basta un attimo organizzarsi e soprattutto non andare in Brasile, come in questi casi la postazione romana era allestita anche per questo, cioè per l'impossibilità di fare davvero tutto in Sudafrica. Domandone finale, per quel che mi riguarda, come fa a non esserci la terza via tra lo svacco totale della RAI e, diciamo, l'ipertecnicismo di cui ogni tanto Sky si pasce, no? Cioè, perché non c'è su un mondiale così coinvolgente, così, secondo me così bello e così valido e così emozionante, perché non c'è più la via di mezzo? Perché il problema è proprio esattamente quello, quella è la questione, quello è il nostro problema, non solo forse riferito al calcio, non c'è più spazio per quello. E poi chiediamoci chi è che dovrebbe farla una cosa di questo genere. Secondo me comunque la RAI, bene, ma sì, quando lo fa dovrebbe mettersi in concorrenza con i programmi che ci sono già, oppure sfalsarli di orario mettendo in piedi un'alternativa come si deve e che duri poco ogni giorno. Bene, ma se poi viene fuori che questa cosa qui diventasse molto seguita, venisse molto apprezzata dal pubblico, diventasse il punto migliore, gli altri come ci restano all'interno della RAI? Non sono cose che si fanno. No, il problema. Ci sarebbe il problema dell'agenzia di collegamento Guitti, ma insomma. Che dici? Olanda o Spagna? Proprio per finire. scusami, non ho Orlando, Spagna. Orlando e Spagna. Ah, no, no, sono, guarda, sono assolutamente agnostico, voglio davvero solo divertirmi e vada come deve andare. Lo so che dovrei dire, cioè, se Snyder è contento, sono contento anch'io, diciamo, tendenzialmente nella vita questo, non necessariamente stasera. Quindi, boh, qualcosina sì, ma senza particolare, amo molto anche la Spagna, quindi va bene così. Fatevi divertire e va bene tutto. Vogliamo divertirci fino alle 10:30-11, poi comincia il lavorone. Grazie Antonio. Grazie a voi. Ciao Dipo, un abbraccio. Grazie. Ciao, ciao. Grazie ad Antonio Di Pollina. Ci fermiamo, traffico, poi già diversi ascoltatori, ma questa sera vi ricordo dalle 10:30, dalle 11, programma variabile. 10:30, sera finale va, non va ai supplementari, cioè se il titolo si assegna nei 90 minuti, dalle 11 se invece c'è la coda. C'è la coda. Traffico. La leggerezza è una piuma che cade su un cuscino, è la neve su un davanzale, ha il suono di un soffio di vento o di un pugno di sabbia che scorre tra le dita. Oh no. BMW Efficient Dynamics riduce consumi ed emissioni anche grazie all'utilizzo di materiali leggeri. Oggi l'efficienza è ancora più accessibile grazie alle offerte disponibili fino al 31 luglio, come ad esempio BMW Serie 1 a 116 euro al mese, TAN 1,99. Taiga variabile, salva approvazione BMW Financial Services. Fogli informativi presso le concessionarie aderenti. Strade in diretta. A causa di un incidente ci sono delle code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste. Traffico ancora molto intenso sulle autostrade, in Liguria sulla 10 code a tratti tra Finale Ligure e Savona e proseguendo verso Genova code tra Varazze e l'A26 dei Trafori. Code a tratti verso Genova anche sulla 12 Genova-Livorno a partire da Chiavari. Verso Torino rallentamenti sulla A5 tra San Vincente e Ivrea e sulla A32 tra Salvertrande e Susa Ovest. Verso Milano traffico rallentato sulla A4 Torino-Milano tra Balocco e Novara Ovest e in direzione Brescia tra Peschiera e Brescia Est. Traffico intenso e code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Faenza e Imola verso Bologna e sulla 22 del Brennero rallentamenti da Trento ad Alavio verso Modena. Lungo la Firenze Pisa Livorno code sempre per il traffico tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest verso Firenze, mentre in direzione della capitale ci sono 3 km di coda lungo la Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri. Andiamo sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, incolonnamenti verso Salerno tra Petina e Contursi e tra Salerno Fratte e Salerno. Mentre in Sicilia lungo la 18 Messina-Catania ci sono incolonnamenti verso Catania tra Cireale e La Barriera. È tutto per il momento, il prossimo aggiornamento tra circa 30 minuti. A tempo di sport. Io volevo fare ancora una considerazione con Gigi Garanzini, poi campo libero totalmente agli ascoltatori ancora per 9 minuti circa, sono già tanti, Roberto, Domenico, Paolo, Gerardo eccetera, quindi cerchiamo di fare alla svelta con gli interventi. Però Gigi, volevo un'ultima considerazione sui Normal One della panchina, perché mi sembra qui anche qui filosofie diverse nel dettaglio. Del Bosque, gruppo unito, solido, blocco Barcellona eccetera, quell'altro gli zingari del calcio presi di qua e di là, sì. Olanda che insomma, questa la grandezza di, secondo me, di Van Marwijk, che è stato il lavoro nello spogliatoio, perché abbiamo visto delle squadre più forti di questa con la maglia arancione disintegrarsi di fronte, sì, sì, a problemi di clan eccetera. Del Bosque decide di fare a meno di Fernando Torres a una stella offensiva, invece Van Marwijk va con Van Persie fino alla fine. Deve avere un eccellente rapporto lui con i giocatori, e probabilmente questi giocatori sono dei bravi ragazzi alla fine, con ogni probabilità, perché ci vogliono tutte e due le condizioni perché si realizzino queste facilità di rapporti, no? Nel senso che non basta che tu allenatore abbia carisma, sia credibile, sì, sia magari una brava persona, bisogna che sia una brava o ragionevole persona perlomeno anche l'altra. Mi pare che questa cosa l'abbiamo gestita bene. Io non so, vedere Fabregas, per dire, che accetta, esatto, oddio, l'aveva già accettata agli europei nel 2008, però vedere Fabregas che accetta senza fare una piega la panchina, Fabregas, vedere Torres che entra e esce senza fare una piega, da quell'altra parte vedere che nessuno di questi pretende di fare comunque la prima donna, no? Perché poi la fa chi lo mette, chi in quel momento è diventato prima donna per meriti suoi, vuol dire che c'è un gran lavoro dietro, e vuol dire che sono bravi. Soprattutto nello spogliatoio olandese, perché gli olandesi poi, insomma, non dico che siano i mercenari storici, ma insomma, sì, un minimo di disinvoltura l'ha sempre avuta. Quanti, no, ne hai visti gli spogliatoi olandesi esplodere, sì, dopo due partite di un mondiale? Certo, certo. Qua invece si sono comportati in una maniera esemplare. Roberto, buonasera. Vi raccomando rapidità negli interventi perché il tempo stringe. Roberto, dica. Roberto? Non si sente. Domenico da Milano. Buonasera. Niente, io volevo dire soltanto una cosa, anzi due. Nella prima è che nel 78 la squadra più forte era probabilmente l'Italia. Nel 74 ha perso l'Olanda, ma meritava sicuramente, io sono un po' più vecchio di voi. Questa sera tifo l'Olanda semplicemente perché è la squadra che avevo adottato prima dei mondiali, prima dell'inizio dei mondiali, perché sull'Italia francamente non ci scommettevo. Ognuno ha le sue ragioni. Però Domenico ha detto una cosa vera, perché l'Italia per le prime 3-4 partite giocò meglio in sì. Argentina, giocò meglio di tutti, anche degli olandesi. In effetti quello era già un'Olanda in flessione, già era già un'Olanda nella parabola discendente. Però il problema è che l'Italia atleticamente, fisicamente, un po' alla volta cominciò a perdere brillantezza e invece gli olandesi crebbero ancora di condizione fisica. Ho detto fisica. Prima che mi sarebbe piaciuto vedere una nazionale italiana sullo stampo di quella 78 in questo mondiale, cioè magari non per andare lì con grosse ambizioni, però per preparare il suo futuro, cosa che non è stato fatto. Io credo che, insomma, così, adesso poi a grandi linee, con le dovute differenze, l'Italia giocò in Argentina nel 78 un mondiale come l'ha giocato la Germania. In questo perfetto. 2010 e non ci vado molto lontano. Müller è una stella, secondo te? Può diventare sì, un fuoriclasse assoluto? Direi di sì. A 20 anni ha dei numeri e una maturità e una saggezza incredibili. Poi sempre piano e dipende da come maturano. Cioè, Adriano, 17 anni, era un fenomeno certo. Totale. Poi adesso lo vediamo com'è. No, lo vediamo. L'abbiamo già visto pure peggio, ma insomma. Mi auguro che non abbia la stessa testa di Adriano. No, è per ricamata. È per fare un caso limite, certo. Insomma. È per dire che sbilanciarsi sul futuro è sempre difficile, sia di un individuo, sia di un giocatore che di una squadra. Però tutto lascia supporre che uno come Müller, tedesco per di più, abbia un grande futuro davvero. Paolo, Siracusa. Ciao Carlo e buonasera Gigi. Ciao. Cosa succede lì? Allora, come senti qua l'atmosfera è molto calda. 10 olandesi, il resto tutti siciliani pronti alla... Ma qual è il rapporto? 10 olandesi e quanti siciliani? C'erano 12 siciliani. Ah beh, allora siamo in parità numerica, siamo grosso modo in parità numerica. La cosa bella è che i siciliani hanno tutti indossato un capo d'abbigliamento arancione, quindi... Ah. Tutti pro Olanda. A parte ora sto vedendo in televisione c'è Patrick Kluivert che sta gufando contro la sua propria squadra. Vabbè, comunque. Sì. E non so Cruyff da che parte finirà per stare, no? Gigi. Cruyff aveva fatto un discorso molto saggio, però, sì. Molto maturo. Lui ha detto: io sono olandese di nascita, però sono basco, cioè basco, sono catalano d'adozione. E sono tanti anni che vivo lì e mi sono trovato bene. Il calcio che una volta facevamo in Olanda noi, ho cercato di trapiantarlo lì e in parte ci sono riuscito. Quindi sono davvero combattuto, va ancora a finire che tifo Spagna. Però, ma anche perché è legittimo, no? Lui vede qualcosa di suo in questa oggi Spagna barcellonese. C'è più calcio, c'è più Cruyff nella Spagna di oggi che non nell'Olanda. E quindi lui fa questa riflessione, mi sembra. Perché non per suggestione è stato lui a portare al Barcellona. Ma certo modo di allenarsi, un certo ma modo di filosofia proprio, di filosofia. Fondo. Gerardo Salerno, buonasera. Buonasera, cercherò di essere brevissimo. Io ti farò Spagna, anche se arrivano in finale le due squadre che hanno meritato di più, perché si parlava tanto di Argentina e Brasile, ma zitto, queste due sono arrivate dove meritano di stare. Spagna per un motivo molto semplice, perché credo che in questo calcio dove si fa una sorta di catenaccio a centrocampo con squadre corte, la Spagna riesce con questa ragnatela di passaggi a liberare l'uomo improvvisamente, a creare le condizioni per il gol, a far correre gli avversari. Insomma, io sono innamorato di questa Spagna tatticamente, fermo restando che applaudirei l'Olanda se vincesse il mondiale, perché lo stramerita, perché gioca davvero molto bene. La ringrazio e volevo una sua risposta. Buonasera. A lei, lascio la risposta a Gigi Garanzini. È grosso modo così. Io continuo a dire che mi sarei divertito di più se la finale fosse Spagna-Brasile e se potessi riavvolgere il nastro del mondiale e fare in maniera che a 23 minuti dalla fine non ci fosse, no, un po' di più, forse 35-38, non ci fosse stato quel blackout improvviso tra Julio Cesare e Felipe Melo. Secondo me stasera vedevamo una finale più spettacolare ancora. Ma questo non per togliere qualcosa all'Olanda, per dire che secondo me se in finale c'è un Brasile comunque decoroso, più che decoroso rispetto ad altre edizioni, contro una Spagna come questa ti diverti ancora di più. Poi, poi evidentemente queste sono opinioni. Sì, ti aspetti un'Olanda che ricalcherà la partita che ha fatto la Germania l'altra sera, sempre con la Spagna? Ma se ci riesce è già a buon punto, secondo me, perché l'Olanda ha una percentuale di trasformazione delle occasioni più alta di quella dei tedeschi. Mi sembra che le basti meno, cioè i tedeschi hanno avuto 3-4 occasioni senza riuscire a colpire. Se gli olandesi hanno 3-4 occasioni tra Robben e Snyder e magari anche Keiter, che è il più sottovalutato, ma sì, che, sì, che è un osso proprio come di quelli, strepitoso giocatore. Io credo che se ne hanno 3-4 almeno una la trasformano, e quindi penso che giocheranno grosso modo così, penso. Certo che Gigi pensa, se l'Olanda vince questa finale fa percorso netto, tutte vittorie e va in compagnia, questa Olanda va in compagnia del primo Uruguay, della prima edizione del mondiale, del Brasile del 70 e poi quello del 2002 che non era quello del 70 ma era pur sempre il Brasile di Ronaldo e Rivaldo. Certo, sì sì, difatti, ma di suggestioni ce n'è, questa sarebbe una di quelle grosse, per esempio. Dunque ci sentiamo più tardi, adesso andiamo a vedere come finisce, poi naturalmente ne parliamo. Per quanto mi riguarda vi saluto, per quanto riguarda invece Gigi Garanzini l'appuntamento a dopo. Prendo e a domani, no? Il testimone io alle 10:30 in caso di tempi normali, alle 11 in caso di tempi regolamentari e poi ovviamente domani. Con centralini aperti anche stasera. Certo. Mi raccomando. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Buona serata e buona finale a tutti.